Pasqualino, cambia, Sassari, Alfa 1, attenzione, attenzione Canalesi. Pronti? Pronti Franco? Oi oi oi, sono tornato adesso, sono uscito dopo una settimana di clausura. Sono riuscito a fare tutto quello che dovevo fare, una mini spesuccia, ho avuto solo un capogiro salendo le scale per entrare a casa. E me l'aspettavo però. Come mai? Un calo di pressione? No, no, è quel disturbo famoso che mi era venuto, che ce l'ho da quando avevo 3 anni, è una cosa lunga da spiegare, una cosa ormonale comunque, che ti colpisce ogni... Non è fisso, può venire a sorpresa, può venire a sorpresa. E vabbè, ancora non è passato del tutto il capogiro, in poche parole, dai. Vedo che camminando piano sono riuscito a fare tutto. Però le scale sono tipiche, non so perché, sarà la forma, il coso, mi ha fatto venire il capogiro proprio. Non lo sapevo, mi dispiace, dai. Piano che ti stai riprendendo. Sì, sì, cioè a guidare guido benissimo, perché finché sei seduto alla guida non c'è problema, è camminare che se cammini veloce può venirti il capogiro. Per il resto guidare a voglia, potrei guidare tutto il giorno. E poi un po' il sole dà fastidio, un po' di fotofobia. E ma sparirà tra oggi e domani del tutto, dai, del tutto. Certo, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto adesso. E sono contento. Adesso ancora è presto per entrare in radio. Mi volevo, proprio adesso, ho pensato di mettermi l'HF per ricevere i radioamatori. Mi faccio un po' di ascolto in 20 e 40 metri. E più tardi ci sentiamo, dai, fra. Attenzione, Marco, ruota pugnata, attenzione. Ehi, hey, ciao Eugì, beh, dove ti trovi? Sono qua, gallerie, capito, troppo gallerie. Forse ho capito gallerie, ma sei troppo basso Eugì, sali e scendi, c'è un USB notevole, dai, il segnale sale e scende, spero sei basso, dai, sentiamo più tardi, dai, Eugì. Dai, rientro più tardi, adesso ancora è presto. Va bene, ciao, comunque, va tutto. Mia, adesso sei arrivato forte. Sei arrivato bene adesso, via. Bene, solo se sei diretto di bello. Fine settimana? Ehi, a fine settimana, fuori, va tutto. Ma in questo momento. È stato in buca, eh. Ehi, gallerie, ha imboccato le gallerie. Ciao, Eugenio, ciao. Dimmi Franco. Non riesco a accordare questa antenna, mi dice praticamente che dovrei accorciarla di brutto, perché se mi sposto nei canali alti aumenta, nei canali bassi invece è perfetto, è 0, 1 e 1, dai. Eia, ma perché hai molte stazionali sui canali alti? Sui canali DLX, stazionali hai? Sì, no, ma anche su questi canali qua, se non uso l'accordatore è già sulla fascia rossa. Ah, sulla fascia rossa, caspita, ma che antenna stai usando? No, è una Sigma, non si legge che... non so se sia la PLC 800, non sono riuscito a leggerla. Non è tanto alta, penso che sia sull'1,60, 1,50, non l'ho misurata la verità. Però no, o taglio l'antenna oppure il cavo non lo posso neanche accorciare perché mi arriva giusto. Ascolta, però ci dovrebbe essere alla base dello stilo una brugolina da mollare, una piccola brugolina esagonale, e dovresti, riuscendo a salire o abbassare lo stilo, a tararla. È tutta giù, c'ha due brugoline. L'ho abbassata e più di tanto non scende, dovevi quindi tagliarla l'antenna, spezzarla alla punta. Quello sì, se non tara nemmeno così bisogna... bisogna tagliarla, ma tu hai la massa effettiva lì. No, sicuri, gliel'ho portata con una treccia di rame per non bucare la capota, perché la macchina è già è alta. Se dovessi mettere l'antenna tocco la per solo con l'attacco, sono già a rischio. Ah, è vero, di tu. Ma è strano però, con la massa effettiva che non riesco a accordare sulle frequenze per cui è fatta. Invece sui canali di sotto e sono più basse, così è. Sì, se scendo giù non ci piace neanche l'accordatore, tipo una banda sotto, anche due bande sotto, giù è accordata bene. Su invece salgono di brutto, se ne va oltre la faccia rossa addirittura, se salgo oltre i 40. Che strano. Addirittura così alte, calde, ma a meno che non abbiano... è stata sempre tua quell'antenna, perché magari hanno messo la bobina, l'hanno modificata per altre bande, boh. No, ce l'aveva un camionista, però la usava solo la 27. L'unica cosa che poi viene modificato penso che sia il cavo, la lunghezza del cavo. Non vedo altre spiegazioni. Però non pensavo che influisse così tanto il cavo. Ma ti dirò, in teoria, questo sempre in teoria, se l'antenna c'è una buona massa, insomma, la lunghezza del cavo non dovrebbe interferire, almeno, vabbè, io parlo per quelle da casa, ma che macchina dovrebbe essere lo stesso? Non credo che il cavo faccia parte proprio della risonanza dell'antenna, non dovrebbe, non deve, in condizioni normali, ma non lo so però. Non lo so. E le antenne date sempre nuove bisogna prendere. Quando sono nuove funzionano sempre bene. La roba regalata non funziona mai bene, non è mai perfetta. Ma l'unica cosa è che non è. Diciamo che è sotto il piano della macchina, non è in alto l'antenna. Diciamo che per quasi un metro rimane sotto la a livello della capota, poi la punta sta su. Ah, molto in basso risulta, chi lo sa se è per quello. Dovresti prendere, che ne so, quell'attacco universale, lo puoi orientare in tutti i modi. Io ce l'ho sulla macchina, lo puoi orientare nelle tre direzioni e si può mettere a baule, a cofano o a portiera. Io l'ho messo sulla parte alta sull'angolo della portiera. Capito? Ci metto antenne di tutti i tipi, HF, per la 27, VU, tutto. Ho capito, sì, no, per l'attacco addirittura era già attaccato l'antenna, perché quella specie di basetta che usava forse sulla grondaia del camion, questo signore. Però non voglio bucare la macchina, non voglio scalfire la verniciatura. No, con quel tipo di apparecchio non si... con quel tipo di basetta non la scalfisce, anche perché dove stringono le viti c'è una striscia di alluminio, proprio di metallo, che evita di rovinare la carrozzeria. L'hanno pensata bene, dai. È della Proxel, non mi ricordo la sigla al momento, però molto bella come basetta, perché certe sono fisse, no? Sono piane, diciamo, vanno messe su un coso piano per risultare orizzontale l'antenna. Invece quella la puoi orientare proprio nelle tre direzioni ed è molto molto comoda. Se trovo una foto te la manderò. No, ma tu WhatsApp con me non ce l'hai, no? No, numeri. Mi sai neanche quello di Claudio, cioè, se non sbaglio, da quando ho cambiato il numero mi sa che l'ho perso. Eia, adesso provo a fare questa cosa qui. Mi prendo l'apparecchio HF e lo attacco un'antenna della 27 e mi ascolto un po' le bande amatoriali. Che da tanto che non lo faccio, dai, oggi è ancora presto, quindi sicuramente anche i 20 metri sono attivi, 40 più che mai poi. Comunque ieri c'era propagazione, perché sentivo, non so se era Porto Gallo o qualcosa del genere qua, sui canali alti sempre, dai. Sì, anche oggi ho sentito qualcosa, Porto Gallo, uno che parlava con la voce da trans portoghese, 27, 5, 5, sai come parlano loro, no? Sembrano dei trans brasiliani. Sì, non si fa. Adesso provo, guarda, ho fatto una prova con qualche antenna rudimentale, qualche pezzo di fili ferro zingato un po' robusto, provo a accorciare le misure e vedo un po' se le stazionarie scendono. Se se è fattibile accorcio l'antenna. Se proprio non riesci a trovare una posizione migliore, dovresti provare a accorciarla. Poi non si sa se l'antenna è, per esempio, è cortocircuitata l'antenna. Metti che abbia perso il cortocircuito, non sta più lavorando come deve, non lo so quello. No, col tester mi risulta in corto. La massa, lo stesso, l'ho controllata col tester e arriva, toccando un dado, un bullone, che tiene l'auto di scorta e mi dà la continuità. Quindi la massa c'è. Non so se va bene, non è la stessa cosa di averla sul testo, però la massa c'è. Mi, la stessa antenna ce l'ha Natalino, la PLC 800, l'ha messa a centro capotta un po' avanti, no? Più avanti, e risuona bene come stazionaria. Io l'ho avuta la PLC 800 30 anni fa, l'avevo messa sulla Fiat 500 vecchia di nonno. Cioè, vedevi questa macchinetta piccola e poi questa antenna era 1,60 m e l'avevo anche tarata bene, era abbastanza efficiente come antenna. Questo più o meno a quell'età lì, e forse anche di più, qualche anno in più, l'età è quella, quando è uscito. Più cose ne hanno fatto come misure, una via di mezzo per esempio tra la PLC 800. Beh, rispetto alle vecchie antenne hanno fatto antenne di tutte le marche e di tutti i tipi. Poi esisteva anche la PLC 1000, sempre inox, che era più alta, capito? Una bella bestia. E più lungo è lo stilo e più riceve, più insomma rende l'antenna. Però sai, comincia a essere un po' troppo alto, circa 2 metri. Io dico che 1,50, 1,60 è la via di mezzo giusta per avere abbastanza resa e che non sia troppo lunga l'antenna, dai. Sì, no, il problema è che io non posso metterla su perché a volte facciamo fuori strada con gli amici e passi, guarda, in mezzo agli alberi, ai rovi, ne sta per il tutto. Invece è così, insomma, è molto flessibile come antenna. Sorgendo, non so, 1 metro su quasi, flette parecchio, come antenna la pieghi a 8 come voi. Sì, facendo fuori strada sì. Perché appunto passi in mezzo a alberi, rami, figurati, bassissimi proprio rami, quindi rischi anche di rovinarla, che si pieghi troppo e rimane piegata. E vedi un po' cosa puoi fare, se no al costo di ricomprare la nuova, cioè usare la stessa però nuova, perché sai, quando è vecchia e magari la bobina è piena di rudi, che ne sai, se piena di verde rame, non lo so, sono tante cose imponderabili, dai. Si può smontare quella carica? Per quella astuccia in plastica si può aprire? Sì. E che io sappia sì, si smonta da sopra, toglie lo stilo, si smonta dalla dove c'è l'avvitamento dello stilo, insomma, bene o male credo che si possano smontare tutte. Così si vede come lo stato interno. Per esempio nella Turbo 2001, che non è proprio a tenuta stagna, spesso entra acqua dentro e diventa tutto un pasticcio nella bobina, capito? Proprio un caos fa. Perciò qualcuno per sigillarla usa silicone, se la fa proprio a tenuta stagna, così l'acqua proprio non entra. No, qua vedo che il cilindro penso che sia in plastica, ruota su se stesso, quindi non è, sicuramente non è ermetica. E comunque provo, sarà a vite, non so, proverò a smontarla. Probabilmente come dici tu ci sia un po' di ossido, perché quella che di casa per esempio l'ho solo pulita, è aumentato un sacco, di ricezione specialmente ha migliorato parecchio. Io in macchina invece ho una base magnetica da 12 cm con antenna Midland ML145, 1,60 m, terribilissima, proprio centrobanda gliel'ho fatto sul 40, se sa 1,1, 1,2 sull'1 e 1,1, 1,2 sull'80. Però mi sa che gliela allungo un po', gli faccio il centrobanda sul 20, dai, o sul 30 quantomeno, dai, una via di mezzo, in modo da avere anche i canali alti fruibili. Ma il bello è che appunto ci puoi fare benissimo 80 canali con stazionari praticamente quasi assenti. Così deve essere. Anch'io mi ricordo quando usavo, non mi ricordo che antenna sposta, era una frusta nera molto alta, tipo 1,70, non mi ricordo. E aveva una bella rete con l'antenna lì. Ce l'ho ancora, ce l'ho sulla base magnetica, ma mi si era aspettato l'attacco. L'avevo modificata e sotto, quindi gli ho messo un mollone e anche lì adesso non riesco più a tararla, anche se lo stile è a zero, mi risulta troppo lunga. Una volta la PLC 800 o la 1000 esisteva in vetro resina, fibra di vetro nera. Figurati quant'era grossa quest'antenna. E se becchi un ramo si spezza quella, sì. Mentre in alluminio almeno flette un po', capito? No, questo è acciaio, ma guarda, la punta riesce a fare un cerchio piccolissimo, di quanto è flessibile. Ehi, è buono, anche per andando fuori strada è buona quella allora. Ehi, magari anche più flessibile della mia sicuramente. Flessibile io, l'altro giorno l'ho messa nel cofano, per la smontata, che non la lascio di notte. Ma ci stai in uno spazio piccolissimo, la fai a 9 volte questi studi. Ehi, ce ne sono tante. Una volta c'era la Sirtel, che non so se esiste ancora la Sirtel, la LEM, vabbè, la LEM c'è ancora, fa quelle specie di Turbo 2001, Sirio le fa e sono molto belle, Sirio, Sirtel, LEM, l'altra qual era? Me ne sfugge una, la Sigma, infatti la PLC 800 vale sia della Sigma, o sbaglio? No, non sbaglio, c'è scritto Sigma, non riesco a leggere la sigla dell'antenna, ma la marca è Sigma, è stampato proprio sullo snodo. La Sirtel, non so nemmeno se esista più la Sirtel, non se ne siete parlare. Vabbè, poi c'è Midland, ma la Midland più che altro sono antenne cinesi. Però quello che io, per essere base magnetica, rende abbastanza bene, la verità. Tiene 80 canali come niente, 1 e 2 all'estremità, quindi puoi andare anche oltre volendo, sai. Non mi fa nulla, fino a 1 e 5, sotto il 2 va tutto bene, detto tra noi. Non bisogna sottovalutare anche la resistenza dei finali, non gli fa nulla. Basta stare sotto il 2 e vai tranquillo. Bene, detto ciò, quasi prendo quell'apparecchio là e lo attacco. Dai, mi ascolto un po' di radiatori, poi ci sentiamo più tardi, ok? Sì, ok, dai, io intanto accendo perché sai che sono al lavoro qua. E quindi a volte ci sono, a volte non salto dalla macchina al posto di lavoro ogni tanto, in base agli orari, dai. A più tardi, grazie per le dritte. E io Franco, dai, sentiamo, a più tardi allora, ciao. Ciao. Oh Antone, sei da tuo fratello. Ehi, stai arrivando quasi Santiago 7, un po' di meno, dai. Ehi, sto chiudendo Antone, sto mettendo l'HF, dai. Mi faccio una ricevuta, una bella ricevuta di radioamatori. A dopo Antone, entra anche tu. Allora ci ho messo la ventola, così almeno l'ora aspetta. Giuseppe, quando non ti serve e staccalo, non c'è bisogno. In questo momento è spento, sei sicuro che è spento? Ascolta, e attaccalo a vedere che voglio vedere il segnale. Che voglio vedere il segnale, attacca. Prova, parla. Allora, ho detto che il lineare del 4 sia qua, che potete arrossire delle patrocche. Non avevo rubi. Da 8 e mezzo vai a 9 più 10. Va bene, va bene. Staccalo. Ottimo. 9 più 10, arrivi più forte di quando dall'altra radio, ok? E infatti già va bene. Sì, vale in macchina e ciao, buonasera, è preferibile metterla a una ventola, ma lì non c'è bisogno perché è abbastanza rieggiato, capito? È abbastanza rieggiato. Il dissipatore scalda, deve scaldare perché è fatto per scaldare. E chi l'ha progettato, se c'era qualche problema l'avrebbe messa lui la ventola, invece non gli ha messo ventola, capito? Vale. Quindi è nato così, per dissipare e basta. Mentre in macchina, secondo dove lo nascondi è meglio metterlo la ventolina, ma ripeto, il progettista di quelle cose lì, se ha fatto un dissipatore così grande, vuol dire che è più che sufficiente per dissipare il calore. Tutto qua, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, buon pomeriggio e buon sabato. E felice weekend, va bene. Sì, certo, se hanno fatto così, vuol dire che deve stare così. Ma siccome è sotto il sedile e non prende tanta aria lì, no? Si chiamano scalda. Io l'avevo provato senza lineare, senza la ventola all'inizio, e ti dico che la mano sopra non ce la mettevi, assolutamente. Ci potevi mettere benissimo le uova per friggere, sicuro. Però ero dovuto mettere una ventola e ogni tanto la metto in funzione, certo non è che la faccio sempre attaccata perché altrimenti ormai è troppo freddo, no? Ogni tanto la metto in funzione e si vede freddo un po'. Tutto qua, io mi sento una voce di ritorno, ora. Allora, l'anticipatore del lineare, no, mi sento ancora la voce. C'è un ritorno, riprendi Claudio. Vabbè, ritorno è passato, già va bene. Ok, ma non c'è altro nessuno da Sassari? Ci sono io. Oi Nathalie, buonasera, ben ascoltato. Hai visto il miglioramento che ha Giuseppe quando attacca? Sì, ma se avessi avuto l'antenna come la mia sarebbe fatto diverso il discorso. Manco bisogno di quello, c'era fatto, io penso. Quindi io ci vuole un aiutino per lui perché è una zona un po' particolare, capito? Però va bene, caspita, passa qua da 8 qualcosa a 9 più 10. Caspita, un bel incrementa un bel. Va bene, la radio non infastidisce niente, va bene. Ok, va bene. È andato a Pignara, non si è sentito? No, negativo. Ok, va bene. Avanti, Giuseppe, riprendi. Tu fai un po' di staccare, se no tua nipote ti picchia. Natalia, non l'hai sentito se non attacca? Sì, che lo sento. È che mi era allontanato. Hai sentito, Giuseppe? Hai detto che si era allontanato, già ti sente. In questo momento il segnale dovrebbe cambiare. C'ho QRM, mi è salito il QRM a 9. Ti è salito il QRM a 9? Un bel QRM c'ho questo momento. Sì, Giuseppe, già ti sente, non ti preoccupare. C'è un bel QRM però, ma già ti sente lo stesso, lascia attaccato e fregata. Non è il caso di attaccare, quando è il caso lo attacchi, capito? Quando è il caso che non ti sentono per niente, allora prendi e attacchi. Quello è fatto per quella motivazione. Chi ti sente basso, eccetera, non c'è bisogno di attaccare. Se uno non ti sente per niente, allora un attimino accendi l'alimentatore, capito? O lo attacchi. Avanti, vale. Sì, appunto, non c'è bisogno di attaccarlo, va bene così. Comunque, Giuseppe mi ha detto a me, 9, 9, 9, 20, tutti 9.30, 9.25 con tutti di 9.30, dopo un attacco lineare ne arriva 9.35, ma non ci bisogna venire, non ci bisogna, va bene così, capito? Va bene così, quello attacchi, quando c'è qualcuno che non ti sente, allora l'attacchi e va bene, migliora qualcosa, capito? Va bene, comunque ti sento bene. Anche con l'ineare attaccato la modulazione varia pochissimo, proprio una cosa minima, ma va bene così. Battellino perché QRM, ormai prima c'era antenna piccola e poco QRM, adesso antenna grande molto QRM, aspetta qua, tra un po' qui si inizia la propagazione, io dico che qua diciamo che a casa mia qua non sento più nessuno, solo te sentirò Claudio, come sarà casini, diciamo QRM forte e propagazione. Ehi vabbè, è così. Anche io cosa pensate che signori bassi quando c'è un bel QRM non mi sento, quindi devo avere un bel pacchetto anche io, ok, avanti a te. Ma a me mi sale di colpo, molte volte mi sale di meno, dopo di colpo, sono disturbi, non è proprio QRM come era prima, adesso è abbassato. Lampa si tutto. Si lampa tutto sì. Anch'io No, se devi fare tu qualcosa, mettimelo. È più di 9 adesso. Buonasera a tutti comunque, ma a tratti va, un po' sale, un po' scende. Eia, a colpi anda, Marco. Io vorrei che venissi tu qua a vedere, perché è una cosa strana. Fatti sale. Sale a colpi sale. Mi orecchie di parafango mi. Ma Natalino, cosa c'è? Supermercati vicino. Adesso ce l'ho più di 9. Te l'ho detto che è quella signora che ti sta pinnacciando. Ciao Marco, hai visto il segnale di Giuseppe? La differenza non è da te. Qua da 8 a 9 più 10. La Massimiliano da 4 a 8. No, io quando ho acceso ce l'avevo già spento, ero in HF. Stavo ascoltando i radiatori stasera, poi ho staccato l'antenna dall'857 e l'ho attaccata qua. Che cosa bella che stavi facendo, stavi ascoltando i radiatori. Che passione che avete. Ti mando avanti Giuseppe allora. Giuseppe, falle un passaggio a Marco, attaccato e poi staccato e poi attaccato. Ah, ma la pena lo sento. Giuseppe, attaccati il microfono alla bocca, solleva la voce, attacca al lineare che vuole vedere la differenza Marco. Volevo dire che sei in sotto distanza dalla chiesa. Allora, sei salito da Santiago 5 a 7.5. 7.5. Notevole. No, io sono in Viale Trento. Natalino in corso Trinità. Buona, la differenza è notevole, buono. Ho capito, hai fatto tutto da bene. E 8 è 8. 9.10 qua. Ehi a Giuseppe, bene, arrivi 8, ho guardato bene. Ma come fa a arrivare 3 Santiago in più? Che lineareto è? Che lineareto è? Un B300 è, che lineareto è? 747 l'abbiamo restituito che non funzionava. Quello è un B300. È un B300, adesso si spiega tutto. Aspetta, 3 Santiago di differenza, non da mai detto. E la Massimiliano da 4.8, a me fa da 8 e qualcosa, 8 e mezzo, a 9 più 10. E penso che gli smitter vostri siano più affidabili, quelli del K, capito? Buona, ottima differenza comunque. Io certe volte lo sento proprio poco perché ha a momenti un filo di voce, almeno parlasse forte, cioè vicino al mic sarebbe un conto, ma a momenti si allontana e non lo sento più di voce. Quindi già mettiamo un preamplificato, adesso ve lo cerco. Se c'è qualcuno che mi fa il connettore, io non ci vedo, quindi sono a puntare, capito? L'M300, così vedi che lo senti bene di radio. Mia Valerio, telefono e così lo mettiamo nella mia accetta con la radio. Ehi, non ne so fare noi di queste cose qua. Non me le ricordo, boh. Oh, vai, vai, e già so che sei tutto tu, è finita. Ci andiamo, porto. Ci andiamo a fare l'attacco, perché io non ci vorrò a infilare quei cosi nelle puntare. Vabbè, tu mi dici dove devo mettere i fili, io non me lo ricordo, veramente, non so, non... Diciamo che non lo so fare, diciamo, vai, vabbè, non mi ricordo. Tu mi dici dove devo mettere i fili, e poi a saldare io ci penso io, mi porto la lente. Vabbè, quello mi interessa anche i saldi, poi già lo facciamo uguale all'altro, non è problema. Già ci sono i numeri, capite? Ogni numero corrisponde a un puntale, quindi non ti preoccupare. Va bene. Comunque, visto l'incremento, va benissimo. Almeno quando non lo sentite, lui sa che deve pigiare il bottoncino e si fa sentire. Ok, avanti Nattarino. Questo QRM che ti sale così all'improvviso può essere qualcosa che hai vicino che te lo crea. Come a me mi crea il QRM e il tradisce l'alta pressione quando c'è il vento, capito? No, è impossibile modulare così. Ti sto dicendo che sale di colpo, fa rumore e ti annulla le modulazioni. Ascolta, dagli altri parti c'è niente, c'è nessuno. Ascolta, prova a cambiare manichino, perché qualcuno sarà più sensibile al QRM, qualcuno meno al rumore elettrico, capito? Prova a cambiare baracchino, a usare anche Lincoln. Vasino Matteo. Ho detto Nattarì, ma c'è qualcuno che sta parlando da altre parti? No. No, e allora questo problema che ti sale così, qualcosa c'è di vicino che te lo crea. A meno che non te lo crei tu stesso, non lo so. A me me lo creava il caricatore del portatile, ok? Il caricatore del portatile che era sempre in carica, anche quando era verde, io lasciavo sempre attaccato, tanto una volta che si stacca, che arriva verde, automaticamente non carica più. E mi creava questo problema, me ne sono accorto. Perché lì tu ho visto che c'hai molte ciabatte, molti attacchi particolari, quindi devi scoprire qual è quello che ti crea problemi, perché se prima non ne avevi, non ne devi avere neanche adesso. Guarda se hai fatto qualche altro attacco, qualche altra manovra. No, potrebbe non essere da lui. Lui, se potesse, dovrebbe avere una batteria di macchina lì, in prestito, provare a staccare il suo contatore e vedere se il disturbo c'è anche quando va a batteria, capito? Se c'è quando va a batteria vuol dire non è da lui, ma è nei dintorni. Claudio, dimmi, vale. Vedendo dalla foto, no, il tubo passa a fianco a dei cavi, cosa sono, dell'Enel oppure del telefono? No, dovrebbe essere il cavo ma quello bianco che scende, quello sono dei miscelatori. No, no, è un cavo grosso che passa a fianco del tubo, è un cavo grosso, è grigio. Ah, il grigio? Dovrebbe essere il collegamento del telefono da sotto a sopra. Perché l'ho visto quando mi ha mandato le foto, no? Quelle foto che ho fatto lì da solo, da Nattarino. C'è un cavo proprio del, non so se è l'Enel o la Telecom. Bisogna vedere, potresti dire anche quel cavo lì che porta di turbo, Ah, sì, è il cavo del telefono quello è il cavo del telefono, sì. Sì, Napoli, potrebbe essere anche quello, la linea DSL che ti sta creando quel problema che è attaccato al tubo dell'antenna. Ah, perché è molto vicino, anzi, è proprio attaccato, è sicuramente quello, eh. Addirittura così forte. C'è un bel segnale DSL lì, eh. Potrebbe essere il computer, Natalino, potrebbe essere il computer, capito? Se tu fai la prova, spegni il computer, spegnete il computer, sicuramente non lo fa più. Adesso stava facendo la prova, Natalino, sì, vai. Potrebbe essere quello, il computer, capito? Perché lo muovo con il computer acceso. Ne hanno due, sicuramente uno è sempre acceso. E potrebbe essere quello, la DSL, perché quel cavo che tu vedi grigio praticamente passa in mezzo al tubo, sotto, nella zaffa, nella prima zaffa, col cavo passa a fianco. Tutto quello, sì. No, pensavo di Giuseppe, capito? No, comunque dovrebbe essere così. penso, perché se roba di elettrica, roba, io per esempio lì poco fa avevo una bella scarica che mi era andata a 79, se è roba elettrica allora lì è un casino, non si sa da che cosa potrebbe dipendere, da chi fuori, capito? Poi se questo cavo che passa lì a fianco del tubo, perché poi c'è il cavo dell'antenna che scende, ovviamente dice quello è noto, io questo lo sto guardando, può darsi è noto. Sì, potrebbe essere quello, adesso farà le prove Natalino. Vediamo un po' se è quello che disturba, molto probabilmente è quello lì comunque. Avanti, Giuseppe, riprendi. No, ma non è questione di capo di antenna del baracchino, Giuseppe, è questione quando abbiamo montato l'antenna, la staffa che sostiene il palo passa praticamente davanti e dietro alla staffa le passa il cavo del telefono e il cavo ADSL, capito? Quindi tenendo il computer acceso sicuramente le fa questo disturbo a Natalino. Capito? Vabbè. In quel caso lì potevi farlo, lui cosa fa? Non è che può spostare la linea DSL, è proprio il problema del computer acceso che le crea questo problema, lui c'ha tutto un'unica stanza, capito? Un'unica sala dove c'è il baracchino e il computer e tutto, quindi potrebbe essere sicuramente quello. Hai fatto la prova, Natalia, a spegnere il computer? È spento il computer e anche il gruppo di continuità. Tutti e due i computer spenti e anche il gruppo di continuità, te lo fa lo stesso? Wow! Quando non c'è va bene, ma quando vedo di Shuibu non puoi modulare, perché infatti mi sa che ne tolgo tutto. Ma già ti sorvegli gli attacchi epilettici. Inverti le spine e fai qualcosa, fai qualche prova, non lo so Natalia. Questo disturbo se prima non c'era, non ci deve essere neanche adesso. Anche con l'antennino c'era. Anche con l'antennino però era più attenuato, adesso è più forte. Ti so come zernino si può modulare. E un rumore me l'ho fatto sentire a Marco al telefono. Pauroso. E sale da Santiago 6, di colpo a Santiago 9:10. Che fa? Così fa. E allora, un casino. Forse l'ha fatto anche a me qualche volta questo rumore strano così. È qualcosa che si accende in automatico, temporizzato, sicuramente. Io sono convinto che sono delle pompe di calore, qualcosa del genere, non lo so. Sono quello di fronte che c'ha la pompa di calore. Natalì, sai perché mi salvo io un po'? Perché la mia antenna è in punta al palazzo, è anche sollevata un po' dal palazzo, per cui tutte le pompe di calore che possono essere sono tutte più in basso e il disturbo se arriva meno. Cioè io quell'M posso averlo ogni tanto a 6, proprio disturbo elettrico, 6, 7 anche, ma poi cessa, capito? Non così forte, caspita. E purtroppo non ci sono alternative, Natalì. Dovresti abitare in punta, cioè avere l'antenna in punta a un palazzo alto per non pigliare disturbi di roba elettrica. No, ma quella lì è qualche pompa di calore sicuramente temporizzata, non so, magari è, sono i tiri che qualcosa del tabacchino, qualche macchinario che c'è lì vicino, che si attacca ogni tanto, che si stacca, non lo so. Qualcosa che li rientra, capito? Qualcosa che li rientra, perché a me me lo faceva, quando ero a Pasqua me lo faceva il frigo del bar, quando si attaccava al frigo c'avevo questo rumore, e ce l'avevo praticamente nel giardino sotto, io ero al secondo piano, e ce l'avevo nel giardino dietro, proprio dove scendeva il cavo, capito? Sicuramente. Vabbè. Speriamo che passi questo rumore, dove ti capa, non so cosa consigliarti, non è poi vannuta. Va bene, avanti Valerio. È un casino, lo so. Guarda, io io ce l'ho adesso, sentivo 3, proprio quel rumore lì, è proprio un rumore elettrico, sentivo 3, poi poc'anzi mi ha dato quel colpo da sentivo 9, vabbè. Sai cosa dobbiamo fare? Via l'antenna per prendere tutto, la tramondenza che c'è, fu roba elettrica, io ho la porta proprio a fianco, c'ho una banda davanti, c'ho quel tappone, c'ho un altro negozio grande di animali, e ui, mamma mia, due cabine elettriche, c'ho vicino, e tutto, prendi tutto lì, c'ho la Conad, c'ho la Sigma, e prendi tutto, l'antenna, prendi tutta la mondezza, e cosa devo fare? Per un filtro non ce ne sono, non penso che ci siano dei filtri da boh, non lo so. E basta, bisogna subire e basta, poi Natalino, non so, sicuramente è fatta la voglia, così è fatta la voglia, sono sicuro, sono 100%. Se non la voglia non sa far passare, perché purtroppo non avete in campagna come prima. Abito al centro storico e lì i rumori sono micidiali. Sono micidiali, anche le moto carrozzelle è molto vicino al mercato, capito? Quindi è lì il problema, però bisogna verificare qual è il rumore, non lo so, avanti Marco, riprendi. E purtroppo anche identificandolo non lo puoi risolvere. Metti che sia una pompa di calore, cosa gli dici? Non usate più la pompa di calore perché è disturbata, anche lì è un casino. Purtroppo quando ci sono disturbi bisogna un po' conviverci. Bisogna sapere anche a che ora lo fa questo disturbo. Se lo fa tutto il giorno, tutta la sera, se solo a ore determinate, per curiosità. Sempre rubati, tutta la vita. Tutto il giorno. Aspetta. Allora, qualche pompa di calore che ce l'ha attaccata, mi dico. C'è qualche pompa di calore attaccata allora, in quello lì. Poi c'è il water e peggio ancora. A quelle che ha 1 milione di russi, da me lo dico. Non è quel rumore. Non lo so. Cosa si può mettere? Non lo so, chi è che mi ha chiamato? Ciao qua, io ti ho chiamato. Buona serata a tutti, ciao Marco, Valerio, Natalino e Claudio. Può essere che sia anche il traffico che c'è lì, delle macchine che in continuazione lì in Corso Trinità. Prova Natalia a mettere un toluide nell'alimentazione, nel capo di alimentazione, può darsi che sia quello, se il difetto di elettrico, di pompa di calore eccetera, magari con un toluide nell'alimentazione del baracchino se lo elimina. E chi ce l'ha il toluide? Io te lo posso prestare, io ce l'ho, non te lo regalo perché ho solo quello, però te lo posso prestare e provare. Ciao Giulio. Sì, avanti Marco. Ehi, ciao, ben entrato, ma secondo te, questo è un disturbo elettrico, no? Si è già capito, ma secondo te questo disturbo elettrico passa tramite l'antenna o tramite la linea elettrica, tipo alimentatore, eccetera? Appunto, cominciamo dalla linea elettrica, a filtrare l'energia elettrica, e dunque può essere che sia quello, poi può essere anche naturalmente dal traffico cittadino, che lui è lì, è a 2 metri dal traffico, per cui quando il traffico è intenso sale, quando il traffico non è intenso si abbassa. No, non è quello, no. No, Natali, ma secondo te è un rumore elettrico? Tanto lo distingui perché tipo rumore elettrico e non di traffico, no? Allora se è elettrico prova con un toluide che molto probabilmente vedrai che lo elimini o perlomeno lo attenua. Adesso non c'è. Mia madre. E appunto bisogna vedere da cosa dipende. Cosa vuoi che ti dico? Si tratta di fare le prove o Natalia. Io incomincerei con quello, con l'alimentazione. Cercare di filtrare un po' di più l'alimentazione. Prova a fare un filo a terra, un filo a massa. Può essere anche quello, magari non hai una massa, tu non ce l'hai lì nell'impianto. Già c'è, nell'impianto elettrico di tutta la casa c'è la massa che l'ho fatta io. Boh, non so cosa dirti, allora prova comunque contro lui, guarda, avevo una soluzione che alle volte funziona molto. Ecco. Avanti il Brecco. Sì, salve, buonasera. Buonasera, avanti, chi sei? Non ti ho riconosciuto. Giulio da questa parte, in compagnia di Claudio, Valerio e Natalino, e oltre anche a Natalino anche Marco. Avanti. Ok, buonasera. Ho appena piazzato la radio qua, tutto bella. Volevo capire com'era la radio, il segnale, grazie. Sì, la radio per me alla mia stazione è ottima. Il segnale è altrettanto ottimo, per cui va benissimo così. Vediamo un po' se c'è qualcuno più lontano di me che magari ci può dare un altro rapporto diverso. Adesso sentiamo. Avanti Claudio. Sì, non ho capito chi è. Sì, salve, sono Davide da Tutubella. Tutto bene a Tutubella? Sì, sì. Tutto bene a Tutubella. Provo Davide, buonasera, Claudio Sparviero da Ciacciari, con la speranza che tu mi ascolti, cambi. Sì, sì, c'è il più forte che arrivi qua, E qua sì, 9 più 10 è abbondante. Ok, grazie, grazie, riprendo dopo. Ok Davide, buonasera e ben ascoltato. Avanti a chi tocca, che sto andando a mangiare già. Massimiliano, Io Davide ti chiamo, io Davide ti dico 9 più 10. Cazzo, mi pare passano Tutubella 9.15. A me Tutubella mi arriva anche 9.20, se per quello, anche 9.30 se c'è qualcuno che ci ha fatto, perché io ce l'ho davanti, quindi non me ne accorgo, però se Davide vede dove si chiama, io Davide lo chiamo. Ciao Massimiliano, aspetta da mangiare il cane. Asciugata tutta giubbottendo tra le gambe. Ciao Giulio, buonasera. No, a me è venuto il dubbio, infatti ho detto tutto bene, tutto bella. Ciao, ciao Massimiliano. Io guarda, intanto ti sto ascoltando con le cuffie, con un volume bassissimo, per cui poi non ci faccio caso io a quelle cose. Tu ti sei presentato come Davide, per me andava bene come Davide, ci mancherebbe altro. Vai Natali. Scusate, sto facendo una cosa. Natali, metti un cavo di massa dal palo di quella parabola che abbiamo piazzato a quell'altro palo che ti è rimasto di quella parabola che non siamo riusciti a togliere. Prova così, mettere un cavo. Va bene, là, ok, tutto a posto. Ok, infatti si tratta di fare delle prove, magari trovando dove è l'inghippo, perché come si fa a sapere, può essere radiofrequenza, può essere corrente elettrica, può essere un po' tutto, insomma, può essere traffico cittadino, e lui è esposto molto, l'antenna è a 2 metri dalla strada dove passa il traffico intenso, per cui bisogna controllare, insomma, armarsi di pazienza e fare delle prove. Vai, va lì. Giulio, buonasera. Devo salutare anche a Massimiliano, Massimiliano è furbo, ma l'ha visto. A me non mi avrebbe potuto, perché da Tutubella non arriva nessuno qui. Devo salutare anche a Matti, ciao Matto, mi sono dimenticato. Mi prende Massimiliano. Ciao Valì, buonasera, ben ascoltato. No, mi sono un po' allontanato anche il microfono dalla bocca, volevo capire se riuscivo a fregare a qualcuno, là. Ci sono riuscito. Va bene, va bene. No, Giulio, potrebbe essere non tanto il traffico, secondo me. Potrebbe essere anche qualche gioco di bambini, tipo PlayStation, roba varia così, che dia questo disturbo. Sì, appunto, si tratta allora in quel caso lì di disturbo elettrico. Appunto io gli ho consigliato di mettere nell'alimentazione della radio, di mettere un toroide, c'è il ferrocube, cioè dovrebbe attenuare. Se si tratta di disturbo elettrico, un toroide attenua è molto anche. Speriamo bene, cosa vuoi che ti dica Massimiliano? Riprendi e fai girare tu, vai. Va bene, va bene. E potrebbe metterci anche un filtro lì e via. Dovrebbe risolvere il problema. Va bene, avanti Valerio, tu che sei più lontano. Io sento casino qua, sento un po' di casino perché iniziano le sovramodulazioni da gente che arriva da fuori. Io non so cosa stavo pensando. Ah, scusa, un toroide, non so, guarda che funzioni quello, Giulio. Diciamo che per esperienza fatta una trentina o quarantina di anni fa, funziona di sicuro, almeno attenua se non altro. Sono lui, sì, ci vuole uno di quelli nell'alimentazione e dovrebbe funzionare. Io sto uscendo, aspetta, ti dico quanto? Con 4 watt, spero che tu riesca ad ascoltarmi discretamente senza fare troppa fatica. Così, io sono convinto che se è questione elettrica è un batton toluide che elimina il problema. Devo provare anch'io, perché anch'io ho disturbi elettrici. I disturbi elettrici adesso ce l'ho, sentiamo tre, però adesso c'è proprio quel re, meglio senza gente di fuori, parlare, qua la notte. Iniziando bene siamo, se iniziamo così non mi sento più, non mi sento più. Però dai, comunque vediamo un po'. Sì, provo qualcosa, vediamo un po', provo anch'io così, Giulio, provo, perché io ho proprio questi problemi. Il traffico no, perché da me, io ho la strada ce l'ho qui sotto, no? E il traffico ce n'è a non finire, perché non è questione di traffico, molto, no, è proprio un rumore forte. Vabbè, dai. Vediamo un po' di sperimentare, poi vediamo che cosa succede. Ci abbiamo qua anche Giuseppe D'Alghero, vediamo un po' se si sente. Riprendi Giuseppe. Attacca Giuseppe, che Giulio e Massimiliano non ti sentono. Attacca 5 minuti. Più che altro non ha voce. Marcia non la toccare, che una macchina c'ha solo 5 marce, capito? Lasciala stare in quinta marcia, parla con il lineare attaccato, se no Giulio non ti sente. No, io ho detto la quinta marcia per dire marcia automobile. Ok, lo senti Giulio adesso? No, sento solo un bisbiglio, ma non capisco quello che dici. Da Giulio non arrivi neanche attaccato, questione di posizione, Massimiliano già ti sente proprio più verso lì Macia Guretta, è ancora una posizione micidiale. Va bene, io non so cosa dire, perché un disturbo elettrico a me me lo causa solo il vento o la pioggia a dei tralicci ad alta tensione, ed è una cosa normale perché io mi sono appunto informato da un tecnico dell'Ener e mi ha detto purtroppo la 15.000 ha queste reazioni. Fa questo disturbo, soprattutto quando c'è una centrale qua come la nostra a carbonati, e se non la tolgono è un casino. Abbiamo anche formato un comitato di quartiere per spostare questa centrale, ma non c'è niente da fare. Va bene, che poi ci sia qualche altro coso lì che passa davanti a Natalino, questo non lo so, lui ce l'aveva anche con l'antenna piccola, però chiaramente era più attenuato, adesso invece con l'antenna grande il disturbo è diventato un po' più alto, tutto qua. E poi è ciclico, attacca e stacca, attacca e stacca, tipo autoclave lì, quando il motorino fa ta-ta, ta-ta, è presente, no? Potrebbe essere anche un autoclave, potrebbe essere anche un pozzo, esatto, potrebbe essere anche un pozzo, l'autoclave di un pozzo, di una pompa elettrica, che purtroppo non hanno nessuna schermatura quelle non hanno nessuna schermatura, capito? Potrebbe essere anche un autoclave, attacca e stacca. Ah, quella stai usando? Sì, sempre quella, sempre il 68, perché devo tenerlo in funzione, cosa faccio? Non è che posso... Sempre questa. Una bella modulazione, ciao. 60 non perdono, anche perché poi il Salimen è l'85, te lo faccio andare con l'85, e voglio vedere se crea qualche difetto con l'85, con 60 no. Non c'è niente da fare. Va bene. Natalia, ci sì. Natalino è impegnato. Marco, riprendi. Papatoia, sto pranzando, dai. Va bene. Avanti Giuseppe D'Alghero, se mi ascolti. Sì, io ti ascolto, ma ti fa una cosa. Portando dei porcetti, sono morto, vai dire. Portando dei porcetti? Già può essere. Porcetti. Ma il problema è che pure ingrassa troppo, capito, con i porcetti. Conviene darle le ossa. Ma io esce bene comunque Giuseppe? 9:10 qua è 8. Va bene. alle 9.25, quando è attacca 9.35. Già c'è la differenza, no? La differenza, vabbè, lontananza la senti di più comunque. Siamo vicini, capito, nonno? Mi faccio notare, sai che cosa? Che uno scatto. Quando voi siete al portante, la parata scatta, fa buf. Perché non è abituato, capito? Ma già si abitua, piano piano. Già va bene, Giuseppe, già esci forte, già va bene. Almeno ti puoi sentire anche dagli altri, capito? Sì. Non ha radio, Perché si allontana dal microfono a parlare? Cioè, tieni il microfono attaccato alla bocca, ti ho detto. E lì ci vuole un amplificato adesso. Abbiamo fatto 30, abbiamo fatto 31. Adesso il segnale è fortissimo, perlomeno qua è 8.5 liscio e 9.10 attaccato. E l'incremento già l'hai visto anche tu. Il problema è che quando è attaccato non lo senti Giulio, che roba strana, ma non lo senti per niente giù. No, mio, ho messo anche le cuffie proprio per cercare di ascoltarlo. Sento il bisbiglio, ma niente da fare. Il segnale c'è, Santiago sì, però radio zero. C'è solo un bisbiglio che non si capisce niente. Lei ci vuole un microfono di tavola. Microfono da tavolo, un microfono da palmo con che esca un po' più alto, che le consenta di aumentare la modulazione, perché quello è il microfono normale, capito? E lui si diguglieggia parlando e allora la modulazione cambia. Se invece lo tiene bello attaccato alla bocca e ci parla sopra, allora magari riuscite a capire qualcosa. Qua non ho problemi perché il segnale è molto alto, capito? Quindi lo sento bene. Vabbè. Adios. Tanto entusiasmo adesso, porca miseria. No, questa non ci vuole per me. Non ci vuole no, perché quando uno c'ha un disturbo, o che glielo creino, o che lo crea lui, diventa sempre una cosa un po' triste, capito? Quindi è un casino. Adesso ci voleva anche questo disturbo e tu gli siamo a pulito. Ma vabbè, cosa voglio dire? Aspetta un attimo. Funziona, è perfetto, ok. Ma mi sembra strano, gatto, non ne aveva niente, disturbi. Ma allora secondo me qualche gioco di qualche bambino o roba del genere. Perché mi sembra troppo strana la cosa. Stava andando perfetto. Ma lui ha detto che ce l'aveva anche con l'antenna piccolina della macchina, però era un disturbo leggero, capito? Non è che le faceva più di tanto. Adesso con l'antenna grande si attira tutta la mondetta lì. Per verificare che cos'è, non so, adesso magari sta guardando all'interno se c'è qualche problema. Ho detto Massimiliano, ma devi salire, devi andare dove mi hai detto. Penso di sì, Claudio, perché c'è ancora Daniela che è giù, la bambina. Penso, non ti lo parlo la sicura, ma credo che comunque dovrei salire. Allora, se sali mettiti in macchina con il microfono, ti avvicino un attimo al portone, io sono in pigiama, me lo lasci così, lo faccio andare tra stasera e domani mattina, poi una volta che abbiamo verificato che tutto è a posto, allora poi puoi passare per ritirarti il toros. Tanto io martedì non lavoro, capito, quindi se te lo passo dopo, così c'ho il tempo domani, lunedì, poi martedì facciamo un ritiro. Ehi, non problema, sì, si tratta giusto di fare questi ultimi ritocchi, ultime prove, e dopodiché dovresti essere a posto, salvo complicazioni. Mi ha fatto un giro a vedere questi 60, tanto gustani. È un bel salito il 60. Salito un bel, anche perché dimostra il fatto che rimane sempre il numero uno dei microfoni da tavolo di quella serie lì, capito? Rimane il numero uno. E io ho fatto un altro, ma lo devo riprendere per attaccarlo al VU. Voglio base, capito? Va bene, avanti Marco, ripendi. aggancio, come niente. Cioè, qua te lo vendi, sta troia. 30 euro con l'aggancio Kenwood. Che cosa c'è? Un più 4. Ma c'è, non hai visto, c'è un nuovo con l'aggancio Yaesu, però. No, non è bello, microfoni così, se... Tanto a me mi serve un altro 60, mi serve per foto, perché ho visto che... Devo attaccare questo per collegarlo agli altri radio se voglio usarlo. E allora no. Lo devo prendere per forza, soprattutto per il base, per il cavo di base, capito? Perché il microfono normale non mi piace, anche se non lo uso, non ci vado molto il volume, però voglio che quando mi serve devo essere a posto, come tutte le altre cose. Va bene. Ok, riprendi Giulio. Ok, sì, e beh certo, in effetti è così. Visto che hai le radio, è giusto che ci sia anche il microfono adeguato, ci mancherebbe altro. Va bene così, e poi, tutto sommato, adesso tu magari in questo periodo non lo stai usando, però stai tranquillo che la tentazione di usare ti viene, per cui è meglio che tu sia sempre al top. Bene, bene, bene, vediamo se riprende Natalino o se si è stancato. Natalino, sì, no, non riprende, vabbè dai, faccio girare per Valerio, vai Valerio! Ma non è che non ci senti più, no? Ma questo non lo so, può darsi che lui magari si è stancato, visto che c'era l'interferenza e magari ha voluto chiudere, non lo so. Tu sei anche io, Valì, ma riesci ad ascoltarmi? Io sto usando nemmeno 5 watt, è 4 watt per esattezza. Sei imbrogliato, sei imbrogliato anche il REM. Comunque adesso a sentirti. Si aumenta un altro po', siamo fregati. Sino 5 stemmi arrivi, capito, di Santiago, 5-6, e quel REM è lì, capito, la stessa cosa, 5-6, sei mischiato, va, però riesco a tirarti fuori. Ecco qua, questa fare qua, sta saldando, no? Anche qui si è acceso la ventola, vai! Ok, va bene, dai. Vediamo un po' di risolvere un po' tutti quanti la situazione. Vediamo un po'. Mi prendi Giuseppe? Io non sento più, c'ho quel REM a 4, se no attacca. La propagazione lo copre. Giuseppe, si sta bene la portata perché stai riuscendo a rate. Dai signori, io vi lascio che mi devo allontanare dalla radio, va? Vi saluto a tutti con la buona serata. Grazie, se ne ascolto ci aggiorniamo via telefonicamente, va? Di nuovo, rinnovo e saluti a tutti con la buona sera, ciao. Ciao Massimiliano, grazie per essere entrato, ci sentiamo le prossime, ciao, faccio girare per gli amici. Vai Valerio per salutare a Massimiliano che chiude. Ciao Massimiliano, con quello che il buon pomeriggio ormai è finito, buona serata. Sentirci. A vederci quando? Massimiliano, quando ci vediamo? Quando pago la bolletta della luce. No. Giulio. Sì, Natalino, cioè, qua, dimmi. Hanno macchiato il tavolo di cucina e mia figlia ha preso la spugna ruvida e gliel'ha passato e gli ha fatto il segno bianco. Cosa le devo dare adesso? Se ci vuole il trasparente sopra, il trasparente ci vuole. Una vernice trasparente e prova con l'impregnante effetto cera e magari poi se si liscio abbastanza può andare bene così. Diversamente bisogna carteggiarlo tutto e dargli una spruzzata sopra. No, dimmi tu. Con quella vernice che mi hai dato tu non gliela posso passare leggera leggera. Con la vernice impregnante effetto cera, ci deve essere scritto nel barattolo. Impregnante cera trasparente, gli dai quella e magari il colore lo riprende, però bisogna vedere se rimane ruvido o se rimane abbastanza liscio. Se è abbastanza liscio che può passare, va bene così, se no bisogna carteggiare tutto il piano e dargli una struzzata a struzzo. Che è quello che tu mi hai dato per le finestre, quello lì sto dicendo, il tipo flatting, quello lì. Sì, non è proprio flatting, è un impregnante quello, però è effetto cera, cioè idrorepellente. Effetto cera è una vernice che se prende acqua la scaccia via, capito? Tutto lì. Potrebbe andare bene anche quella, una riparazione così fatta, non dico in maniera perfetta, comunque diciamo che può risolvere. Però se la vuoi perfetto bisogna carteggiarlo tutto completamente e dare la passata del pugno tetanico sopra, una frustata, insomma, ecco, di vendici a finire pugno tetanico. Ok, adesso ci provo, in ogni caso faremo così. Bisogna smontare i piedi, bisogna smontarlo, lasciarlo questa cosa. Un attimino di bianco per me, riprendo subito, eh. Ok, ok. Avanti, Marco, hai finito di pranzare? Non del tutto, adesso mi tocca il dolce, dai, fra poco arrivo. Ok, vabbè. Mi sembra che sono rimasto io e Valerio solamente. Vabbè, dai, accontentati, 5 bracche sto usando, per cui se riesci ad ascoltarmi va bene, se no sono costretto ad aumentare qualche watt, perché così, no, perché io per Alghero non è che sono in una posizione molto buona, eh. C'è Monteoro davanti a me, per cui devo saltare molto per poter arrivare lì. Avanti, va lì. Per arrivare bene devi prenderti mortali, Certo, io ho il problema che quando inizia la propagazione c'è un po' poco di propagazione. Quando inizia la propagazione io non sento più nessuna stasera, cioè sento solamente a Claudio e basta, capito? Cioè non solo stasera, oppure Porrotores, oppure Torto o i paesi dintorni, no? Non li sento più, non sento più nessuno. Al massimo Claudio che arriva un po' più forte, però è capitato anche l'anno scorso, anche 2 anni fa, che il QRM ha coperto anche Claudio, perché qui il QRM quando arriva o propagazione che sia è 9.10 anche 9.20, capito? Ed è un casino, è un mezzo casotto. Perché dobbiamo fare un gruppo qua ad Alghero, almeno possiamo parlare qui. Altrimenti è un casotto, riprendi Giulio. Ok, vale, prima già c'era gente abbastanza a Alghero e dunque il gruppo si poteva anche formare, ma oggi come oggi quante siete? In due? Sì, tempo fa c'era anche Pinangelo, ma non l'ho più sentito, sono qualche anno che non lo sento più, per cui va bene così. No, ma se io volessi, guarda, ti do una dimostrazione. Adesso mi senti? 10 watt adesso, mi senti? Ma che è? Quello che ha tolto tutto? Non so, chi è? Non lo so, Marco. Aspetta. Ecco, ho rimesso 5 watt. Con 10 watt mi ha sentito meglio o va lì? La differenza è poca, Giulio, la differenza è poca, perché tu mi stai arrivando, sentivo 5 con picchi di 7, poi ho aumentato ed era 6 con picchi di 7, siamo sempre lì, Sì, perché magari ero lontano dal microfono, sì. Lo so, anche tu mi arrivi, Santiago 7 tu mi stai arrivando, modulati addirittura, per cui i segnali si equivalgono sia il mio che il tuo, adesso non so quanta potenza stai usando tu, ma io in questo momento sto usando solo 5 watt e mi va di usare così e basta, senza stare lì a esagerare. Ok, avanti Marco, riprendi. Eia Giulio. No, perché ieri ho sentito un nome simile, no? Che ha molto da quella zona e dice che non c'è più antenna, ne ha tolto l'antenna. Così mi pare che abbia spiegato Claudio. E quindi non può proprio modulare e dovrebbe avere 2K o giù di lì. Confermi, ha 1K o più di uno? Sì, confermo, sì. In effetti è così. Prima la sera addirittura andava anche in 45, dunque insomma ci si divertiva, ma adesso non è più entrato e io sono già un paio d'anni che non l'ho più sentito. Eia, mi puoi chiedi a Claudio, chiedi appena rientra, così mi pare di aver capito, appunto non c'ha più antenna, o l'ha tolta proprio, o magari chissà la deve cambiare, può essere pure quello. Claudio se n'è entrato, ui, disperato per il tavolo adesso. Mamma mia! Mamma mia, adesso fa lo scandalo alla figlia, mi. No. Non è il caso, figurati, non è per così poco, ma le vernici sono così, quel tipo di vernice, anche con una tazzina di caffè calda magari, ti può mettere nel cerchietto, una tazzina del tè o un piatto addirittura, se non ci metti una protezione sul tavolo, direttamente il piatto sul caldo, col brodo ad esempio, col minestrone che so io, su quella vernice ti può lasciare il cerchio, per cui bisogna, con i tavoli lucidati, piatti così trasparenti bisogna stare molto ma molto attenti, se no se lo puoi rovinare. E poi non è tanto il discorso per rifarlo, rifarlo già se ne fa, però è un problema, dai, smontarlo, portarlo in laboratorio, comprare vernici, fruttare, insomma è un lavoro un pochino antipatico, diciamo, dai, capito Marco? Eia. Io avrei pigliato un pennarello color marrone, tac, ritoccato. No, vabbè. Adesso vediamo se rientra, dai. Questo Pierfranco, o come si chiama, modulava tanti anni fa anche, vero? Così mi ha fatto capire Claudio. Sì, Pinangelo, non Pierfranco, Pinangelo si chiama. Per cui quello non si è più fatto sentire, prima già lo sentivamo, non dico tutta la serie, ma abbastanza spesso, ma poi non si è più sentito. Avanti Valerio. Valerio. Marco, ho problemi di ricezione. Ci sono gli spagnoli, mi sono imbandato l'aria, parla però. Ehi, anche qua li sento, se vuoi attacco qualcosa, ma... Marco, mi hanno chiamato, dai, ci sentiamo dopo. Dai, al momento vi saluto, mi hanno chiamato, riprendi Marco. Ciao Marco, ciao Valerio, chi c'è in ascolto, se è possibile riprendo più tardi. Adesso mi hanno chiamato, devo scendere giù. Ok Marco, riprendi. Ehi, ciao Giulio. A dopo, se puoi, se no ritieniti salutato, ok? Ciao. Ok Marco, salutoni, ciao. Ciao Vali, non so se posso rientrare, se ne prendo dopo, dai, ti saluto, ciao Vali. Ma c'è QRM, c'è casino. Vabbè, ciao Giulio, buon quelletti, buona serata, ci sentiamo, vabbè, alla prossima, ok, perché io tra un po' devo uscire, devo andare un attimo al supermercato, devo prendere qualcosa da mangiare, altrimenti non mangio niente. Mi prendi Giuseppe? Oh, sparita tutta la rotta, oi. Giuseppe, purtroppo non ti sento, dai. C'è un po' di QRM leggero di propagazione, che purtroppo ti copre. La radio è troppo bassa, non è il segnale, non è questione di segnale, è proprio la radio bassa. Bisogna rimediare con un amplificato. Va bene, adesso mi senti meglio oppure no? Meglio adesso, dai. Va bene, allora sto con te. Però come dicevo prima, il problema è la voce, non il lineare. Nonostante il segnale, la voce è sempre bassa. Claudio, sei rientrato? Guarda, la voce era... insomma, tutti hanno un problema di cievere. Natalino, ci sei ancora? Niente da fare. Claudio? Vabbè dai, lascio in QRX tutto Giuseppe, lascio il baracchino acceso e vado a fare alcune cose, dai. Se rientrano dopo rientro anch'io, ok? A più tardi. Ok, ciao. Come senti adesso la sono nelle cose, nel servizio? È proprio qua dovevano venire. Porca la miseria. Con tutti i canali che ci sono, dobbiamo sempre mettere a rompere le balle sul bici. Tre volte. Sono spagnoli, stanno entrando a sparare. Vabbè dai Marco, ci sentiamo un altro momento, adesso devo uscire un attimino, altrimenti poi non mangio. Ok? Ehi, a più tardi nel caso, dai, se no ti saluto già da adesso. Ciao Valerio, ciao. Ehi, ok, va bene. Ciao Giuseppe, ci sentiamo un altro momento. Se no anche più tardi. Valerio. Sono portoghesi. Io sono qua, è un attimo, sto facendo cosa. Siamo un po' passati da questa cosa. Valerio. Faccio quello che ti... Che mai riprendo dopo? Sono gli spagnoli in USB, porca la miseria, non so quanto rompono le balle però. Beh, il canale è quello. Beh, il canale è quello, però ci sono 40 e passa canali, sempre dove c'è gente si mettono. Quello è un altro problema. Perché se li chiamo loro mi sentono, capito? Sentono? Se li chiami, se li chiami loro già sentono. Vabbè, allora una prima facciamo un altro. spagnoli sono molto gente del, beh, facciamo aperti, perché l'ho visto anche sulle altre frequenze, gli spagnoli non possono sempre le palle, ma vi sono dei questioni che fanno questione, no? Loro si mettono proprio a fianco di qualche chilo, no? E non pongono le palle, fanno sempre così, fanno una passata di merdosi. Vabbè, chiudo, dai, ci sentiamo più tardi. Ciao, ciao a tutti, ciao Claudio. Ciao. Vabbè, ci pensiamo. No, no, sono qua, stavo rompendo le scatole a mamma. Vabbè, è risolto? Sì, ho fatto un momento Giulio, la macchia è... sta sparendo, però sicuramente vorrà aver verificato, risultato, adesso guardo, adesso possiamo fare. Si smonta, si porta la Giulio, la faccio spruzzare. Ehi, ma larga è la chiaccia, quanto è grande? No, più piccola della mano. Proprio come c'era una macchia, ha preso la spugna ruvida, gliela ha passata e mi ha tolto il trasparente. Eia, già non l'hai sgridata, no? No, ma lì non lo poteva sapere che il tavolo era fatto in quel modo, capito? E d'altronde se uno vuole roba che non si rovini, pigli roba normale, tavolo liscio, senza fronzoli, capito? Oh, io il tavolino ti ho rovinato, adesso non ci dormi stanotte. Come il tavolino, capo e mognetta, è il tavolo del salone, hai capito? Veramente questa casa è stato fatto da pochissimo tempo, nuovo. Tu non puoi prendere una spugna ruvida e passarla sul legno, te ne togli la vernice, scusami. Prendi un panno, ma non devi passare la spugna ruvida, lei ha preso la spugna ruvida. Eia. Ci ho capito che era il tavolo bello, grande. Perciò io dico, comprate il mobile nel mercatone, così almeno valgono poco, se si rovinano il danno è minimo. Allora, mercatone, un paio di mobili, sì, per carità. Insomma, non faccio Natalino, va. E Natalino, ma che avanti, lo senti il rumore? Ho detto, ma io lo sento, ma non posso intervenire. Magari potessi. Ma la rottura di scatola adesso. E poi Natalino si smonta subito, i ceni, levo tutto, no? E adesso prima si parte per gradi, prima toroide sull'alimentazione. Però se passa dall'antenna il rumore, e come si può fare? Non lo so se esistono filtri in entrata per il baracchino. Ho messo a massa il coso, l'accordatore, no? Quindi l'antenna è a massa adesso, no? E c'è lo stesso. Adesso sto mettendo il palo a massa. Ehi Natalia, dove che ci sei? Ma non ti fare tu scoraggiare troppo, mi dalle in questo gabinetto. Non ti fare scoraggiare troppo, perché tu subito dici, ne levo tutto. Abbi fede, fai una cosa per volta, poi il toroide lo vendono da... Chi li vende? Forse il Fusaro, GBC, anche Grassi, tocchiamo ferro, aspetta. Già si trova il toroide per l'alimentazione, però se passa dall'antenna non saprei cosa dirti, Natalie. C'ho un freddo alle mani, non è possibile, non so perché, ma freddo c'è, Claudio. Aspetta, devo mettere a massa il palo. Eia. Claudio. E vabbè, dai, ciao, a domani. No, sono qua, Marco, sono qua. Eia. Eia. Ho detto, se passa dall'antenna il disturbo, cioè se viene captato dall'antenna, io non so se esistano filtri, ma non credo, filtri in ingresso non esistono. E così è il fatto che quell'antenna è molto, molto attaccata alle antenne di su, quindi adesso bisogna vedere se quelle, se lì, perché noi non vediamo purtroppo, li vediamo solo quelle TV, se lì c'è qualcosa che entra nella radio di Natalino, che l'antenna attira, qualsiasi cosa, ci può essere anche una pompa di calore sopra, capito, il motore fuori, lì nel terrazzo di quella lì, è talmente vicino che le entra. Eia. E purtroppo però se è una pompa di calore il rumore lo devi tenere, non si può chiedere di spegnere la pompa di calore, no? Ho letto, io ho un freddo alle mani, che l'ho sempre fredda, ma freddo avete voi? Freddo, c'è, vabbè, pompa il calore ancora, in questi giorni, capito, che passa questa perturbazione russa, poiché la pompa di calore non si è annuta, capito? Quindi abbi un po' di pazienza, se è quello, stai per certo che te ne accorgi subito, perché la giornata di caldo, se non lo fa, vuol dire che è colui, capito, ma poi trova qualsiasi rimedio, non lo so se c'è qualche filtro che attenua l'elettrostatica. Ehi, però in estate poi attaccheranno tutti i condizionatori. No, non lo fa freddo, non lo fa. È a caldo, è la resistenza, capito? La pompa di calore proprio che lo fa. Senza dare aria calda non la fa rumore, lo faceva anche a me via Pascoli, capito? Ad aria fredda non succedeva niente, ad aria calda, come entrava e funziona l'inverter, mi faceva questo. Ah, così è, no, non lo sapevo. Credevo fosse un motorino elettrico. Io chissà perché penso a motorini elettrici. Phon, roba del genere. Vabbè. Quando avevo la Ringo qua c'erano dei rumori simili, strani, tipo con varie tonalità, mi. E secondo me quello è perché c'è l'antenna TV sul palo dell'antenna al baracchino, capito? E magari gli entra qualcosa all'antenna. E è tutto un macello, Ma adesso ti faccio il quesito, se fossi un radioamatore, avere su una banda amatoriale quel rumore, no, in HF, cosa farebbe? Come agirebbe? Non lo so se le leggi sono uguali per tutti, non lo so, però se tu mi causi disturbi io intervengo con le autorità competenti e devo sapere questo disturbo allo che arriva. Quindi l'agoniometro, un'attenzione adeguata, penso che loro abbiano, loro, ma non mi dica, io sono arrivato nella carta, non mi frega niente, però dico, i radiomotori possono fare forse qualcosa di più rispetto a noi CB, capito? Sicuramente. E cosa ti stavo dicendo? No, stamattina mi sono salito, come fa video. Guarda, io uso accendo la televisione, vediamo se Giuseppe telecomando non li usa, usa il PTT, capito? Perché lo accende la televisione e poi lui per spegnere lo schiaccia al PTT e la televisione si spegne da sola. Oh, la sua? Caspita, proprio si spegne del tutto o sparisce l'immagine? Ah, si spegne completamente. Sì, ma forse, ho visto l'antenna. Io mi ricordo che quando avevo il quarto d'onda Gran Play facevo un Meri TVI, con questa no. Può essere che sia il quarto d'onda, ma pare strano. Ma quindi si mette lineare e spegne la TV a tutto il vicinato, così è? No, la sua, non c'è tutto il vicinato, non c'è mai nessuno, solo la sua. Anche senza lineare, anche con 4 watt, non c'è da fare. Hai visto che mi hanno dato la foto apposta, rendersi conto. Un faro, l'antenna TV, con dei misolatori attaccati, addirittura il preamplificatore d'antenna, perché in una posizione un po' balorda per essere molto oro, e quindi c'è anche del proprietario dell'antenna attaccato, capito? E poi la Gran Play, che i radiali sono a 50 cm dall'antenna TV. Eia, molto attaccata. Ma che strano però. Ma lo sai che io c'ho l'antenna UHF, no? Quella del PMR, attaccata a quella TV, alla secondaria TV, all'antenna secondaria della TV, attaccata proprio, una sopra l'altra. Metto anche 35 watt e il televisore non ha un minimo disturbo. Cioè, eppure le frequenze sono vicine, 446, 470 e poi. Nulla, non fa un quadrettino di TVI in UHF con antenne attaccate, immaginati. E certe volte lo fa il baracchino, è cosa assurda, Io al mio, in 10 metri e in 6 metri. disturbo la mia televisione, quella degli altri niente, nulla, solo la mia, eppure centralizzata. Ci deve essere il qualcosa che non lo so, poco me ne frega, quindi non mi interessa. Disturbo l'immagine, in 6 metri e in 10 metri, capito? Eia, eia. Ma sai cos'è anche? I ricevitori, il cosiddetto decoder, che sia interno alla TV, che sia esterno, no, per ricevere la TV, è un ricevitore e potrebbe essere un ricevitore meno schermato, che prende più mondezza. Così come potrebbe essere un ricevitore ottimo, bello schermato, perfetto, che non prende niente, capito? Potrebbe, non l'ho mai capito il perché. Vabbè, ti ripeto, ribadisco un po' come frega, perché tanto no, non lo uso io con la frequenza, perciò non mi interessa. Va bene, in settimana avevo qualche F nuovo, un portello che è un amico, un regolatore mi fa l'aggiornamento, che ancora da quando ce l'ho non ho fatto nessun aggiornamento. E siccome lui c'era uguale, allora lo apporto. Così anche quello fatto, aggiornato, anche se non lo uso, queste varie teste di ultima generazione vanno fatti gli aggiornamenti, capito? C'è un attaccarlo al computer e fare gli aggiornamenti. Va bene, quindi Natalino sta provando a mettere un giallo-verde sul tubo, così sta facendo? L'accordatore l'ho già messo a massa, perché c'è quel galletto per metterlo a massa, quindi l'antenna è già a massa, però il disturbo persiste. Secondo me potrebbe essere più interno che esterno. Qua non c'è nulla acceso che possa rompere le balle. Non lo so. Qualche ciabatta non schermata, non l'ha fatto anche quello, Natali, stai attento. Qualche ciabatta non schermata. Può essere, una ciabatta non schermata. Aspetta. Poco fa c'erano gli spagnoli qua in banda laterale, in USB, a disturbare, stavano disturbando Valerio e lui c'era di fronte. Insomma, sono lo squelch e c'era bene le luci gli spagnoli. Ecco. Mi, secondo me Luca che ti sta disturbando il baracchino, mi è andata lì. Adesso. Vuole vuole è acceso. Pa, pa, pa, pa. Certo che se succedesse qua sarebbe un casino. Mi ricorda molto quando usavo l'antenna da macchina dentro casa, che avevo messo una piastra quadrata 50x50, riuscivo anche a parlare con Claudio, te, con Claudio e con Luca, anche Luca lì dal monte, no? Riuscivo a parlare per ogni AGRM. Sentivi il rumoraggio. Ti credo, da un'antenna così, un'antenna sul tetto, c'è un abisso. Io mi ricordo i primi periodi non sentivo nessuno. Parlavo con Claudio, quelli più vicino, Antonio Riserva, sono le persone più vicine a me. Natalino. Ho messo l'antenna e è cambiato tutto. Parlavo con Alghero, Porto Torres, Stentino, a secondo dei punti, ma anche più lontano, ecco. Sentivo praticamente tutti. Purtroppo Natalino dice che il disturbo ce l'aveva già con l'antennino, però adesso che l'antenna è grande, il disturbo è grande, gli arriva anche 9-10, a picchi di 9-10, lo sai, ed è una cosa che attacca e stacca, 9-10 mi, a malapena riesce a parlare con noi, e gli altri sotto il 9-10 non li sente più, e infatti è incazzato nero. Vabbè, mi sente, sì, Natalino, mi senti a me. Ma hai visto che fanno i travagli, se non tengo a te ti rampa tutto. E ma gli arrivo 9-5 io, Cla. Allora, se 9-39 vi vuoi dire eso. Comunque, questi giorni è fredda la giornata. Stamattina c'era un grado stanotte, mamma mia. Sì, stamattina lo stesso c'era un po' di freddo. Sì. vabbè, c'è questa perturbazione russa di passaggio, ho capito. Adesso bisogna avere un po' di pazienza, già passa. Non è ancora esplosa l'aria proprio calda, sempre più. Giornate belle tipi, tutto sbombalato, capito? Lui l'ha convinto di aver trovato i sacchi. Vabbè, poi è sceso giù in bagno, risalito, mi ha chiesto scusa, ho sbagliato, vabbè, io ho detto le scuse, che la prossima volta lo terrò un'altra volta. Ma chi è questo? Un ragazzo qua, uno abitava qua al monte anni addietro, penso conosciuto a Minoreto, e bene a me, se sono bevuto un po', se è bevuto vado per il cugliano, un altro no a me. Ma tu ci capiteggia, che non va a dire fino a mano. Ti ricordi, ma tu c'eri quando ho lavorato con lo schiaffo via Pastore Alessandro, ti ricordi, fatto le vigili del fuoco? Ma sai che è morto Alessandro, sì. Sì, quello stavo dicendo, poverino. È morto il giorno prima di Pasqua. C'era stato al funerale pure. Purtroppo lui stava continuando a bere, alla fine gli organi, ciao. Il problema è che beveva e non mangiava, hai capito? Non beveva e non mangiava, è successo una cosa del genere lo stesso. Io abitavo lì allora, ho rotto la scatola un giorno, mi sono battuto, praticamente ha messo per coprirsi, perché ci ho battuto con due mani, ho detto un ginocchio, ha messo lì, ed è molto più alto di me, quindi mi veniva anche male, ha messo i gomiti per coprirsi, cazzo, mi sono fatto male al polso, sono rimasto una settimana, non potevo muovere il polso. Mi è dispiaciuto poverino, perché poi anche lui, tramite Adamo, Gennaro, eccetera, ha chiesto la prossima volta di entrare con un gabbo, lui è entusiasta, di buon con un gabbo a portare i birri. Non mi cercare a me perché io ti stacco la testa, gli ho detto. Invece poi dopo un paio di giorni ero al bar da Adamo, sotto casa, prendendo il caffè, mentre la giudice entrava, mi sono attato dei bibirifri. Si è avvicinato e mi ha detto, devo chiedere scusa, ho bevuto l'altro giorno, ho detto, lo sa, mi conosci bene, stai attento perché la prossima volta mi sacco un gabbo, e basta, si è finita lì, ci abbiamo voluto anche una birra insieme, e allora non è che non lo farevo, l'ho visto una volta e sono passato, l'avevamo lo stesso a prendermi il caffè, perché sono andato dal barbiere, da Zaibedo, e quindi quando sono in quella zona passo l'avevamo a salutarlo. E l'ho visto, allora sempre più magro, ho detto, lascia, chili niente, claro, sto mangiando, ma mi vendi, ogni tanto, mi ha dirigito il giornale che muore. Ogni tanto, a me l'hanno detto, lo vedevano lì, vicino a casa sua, a mia Valdetta, nel burettino, io con la casa della Milano nascosta, stappando e bevendo, no, ma ormai i colori erano brutti, cara. No, brutti, era giallissimo, c'era la pancia gonfia, come era andato via? Sì, ma mi ha detto anche Adamo, appunto, è così, peccato, sono 40 anni, non ti vuoi ammazzare così, capito? Io un sacco di volte mi permettevo i video, perché sai come facevano anche tu, venivi con me spesso, andavamo lì da Adamo, poi la mattina di birra, va bene, bevi, già pago io, capito? Stava tutta la mattina così perché non faceva niente, non ha mai fatto niente in vita sua, se solo arruinato rimane giù. Sì, è vero. No, già lavorava, dai, poco, non molto. Comunque la gira stravagante, anche come una volta ci ha provato e l'ho lasciato perdere, sennò in Campiglio abbiamo fatto uno scherzo degli amici, praticamente gli hanno messo il barbecue che abbiamo trovato per arrostire, no? Mi sa che il periodo di Pasquetta, se non mi ricordo, un Campiglio ci abbiamo fatto, non mi ricordo. e io la verità non ho proprio collaborato. E gli hanno messo, era quasi spento questo barbecue dentro, c'era una tenda grande lui, no? Grande. Qui ci stava lui e altre due persone dentro. E gli hanno messo questo barbecue dentro, l'hanno chiuso, siccome lui stava andando, è tornato, abbiamo la tenda, non so, forse a prendersi i soldi, per andare via al bar che c'era, a prendere a Bugoni. Sapeva con me, grazie di te, boh, racconti sempre, io sei tu, vai, sono so cui, vai, ed era fatto Fabrizio Cavo, questo amico nostro, e altre persone che c'erano lì, noi non ci ho collaborato, poi gli ho preso la tenda e mi hanno legata, da, proprio smontata, da un lato all'altro, devo essere appigliata e tornare con me. Non ha fatto mai incazzare, perché mi ha detto una cosa che non, praticamente mancandomi di rispetto, capito, io non ci trovo niente. Mi ho guirato, certo, né abbaia né nulla, tutum. Mi ha guirato alla farmacia, poi ha messo il gomito e mi sono fatto male alla polso. Poi dice, io dico a mio fratello, vieni, fai venire a Tovradì, vai, venire a chi sasso da Bagione, Tovradì, dov'è? Gli metto bocca a buetto, si è finita lì perché poi c'era Mario Pigliotto, la guardia, l'ultima penitenziaria, insomma. Andato qua, finisce, e poi mezzo guasto, guarda, la denunzia già è traversa in buco. E quindi era finita lì. E poi si era avvicinato, dopo un po' mi aveva chiesto scusa, no? Non mi interessava più di tanto, capito? Non era amico mio, io volevo lì, quindi no. Forse è stato un amico, magari, cioè, sarebbe dispiaciuto anche a me. Ma è tutto un bel va, ma se mi manca il rispetto, in quel periodo lui mi attira a metterlo, non è che stavo lì a tirare e molla, adesso sono un po' più accatto e tranquillo, più. Non mi interessava niente, alto, basso, grosso, no, me l'ha fottuto da me, io rispetto, voglio essere rispettato, almeno con la bocca, non dico corretto, ma almeno con la bocca, ho capito. Va bene, avanti Marco. Eia. Diciamo un altro che si è rovinato bevendo, dai, si è proprio ammazzato bevendo. La gente non lo capisce, certi hanno una specie di cosa, di desiderio di autodistruzione, non si sa che meccanismo scatta nella loro testa. Scatta di ragazzo, no, anche di famiglia come si vede, è andata lì vicino a casa di Gianni, capito, via Valletta. Il padre è una persona molto conosciuta a Sassari, il fratello è vigile del fuoco, insomma, un famiglia per me. Lui, ma già quando io abitavo via Pascoli, quindi parlo di 7-8 anni fa, forse di più, che ci è rimasto poco via Pascoli, però ho avuto modo di riconoscerlo perché io tutte le mattine, prima di andare a lavoro, entravo alle 8 allora, alle 7 e mezza, proprio lì sotto, il bar è sotto il palazzo, proprio lì, entravo a far colazione. E lui era alle 7 e mezza del mattino, d'estate, lui era già a birra in mano, capito? Già a birra in mano alle 7 e mezza del mattino, quindi immagino già di lui. E poi continuava tutto il giorno, tutto il santo, solo birra, tutto il santissimo giorno. Come praticamente il fratello lì. Già lo sai di chi per non fare nome, no? 40 anni, e lui ammazzava con le mani due a 40 anni. E poi non mangiava niente, nulla, niente. Allora diceva, mangiate un panino, già parlo io, mangiate un panino. No, non ne ho fame, no. Una bottiglia di birra. Lui sempre birra, la mangiano vizio la sera. Oi. È bello carino, non esce stasera? Beh, no, adesso faccio. Saluto qua a fare appunto la mamma, già sto facendo male ragazza, poi vediamo. Non è una già saigana, però. Marina sempre al lavoro, sì. Come? Sempre al lavoro Marina. Sì, beh certo. Io allora. Uscite un po' a giocare, diciamo, devo lavorare domani. Uscite a giocare, io no. Mi sono visto stamattina, sono andato al Ghiero da Giuseppe a sistemare alcune cosette, poi mi sono rientrato domani lavoro, quindi stasera me ne sto a casa, sono già alle 7:30, capito? Vabbè, fatto qui, ci porto il cane e poi un po' di TV e se la biglia in gomma lo facciamo. Vediamo Tattalino, Natalie, stai sistemando? Eia, controlla anche le ciabatte, soprattutto quella che c'hai attaccata al televisore, che ho visto dove c'è il televisore, il ritrattore, decoder, carica batterie dei telefonini, del telecomando. Occhio, perché le ciabatte, se non sono schermate, è un casino. Io ne ho eliminato una che non era schermata, comprata così a cracuvarato. Ne ho preso una che non mi serve perché ci ho salvavita, però mi serve per attaccare praticamente le linee secondarie che ho qua in stanza, e l'ho presa alla Elcom, l'ho pagata molto di più, però almeno è schermata, capito? Quelle dei cinesi non servono a niente, occhio. Non sono cinesi, ho già controllato, il disturbo c'è sempre. Il disturbo c'è sempre. Eliminatori bisogna andare in chimica, eliminatori, comunque la causa di un disturbo interno così, se è interno è derivato da telecabatterie, computer, capito, qualcosa del telefonino, qualcosa del genere, lo lasci pure l'alimentatore, non so, se invece è esterno vai tu a pescare che cos'è, boh. Dovrebbe provare anche, ti ho detto, una batteria, a levare la batteria dalla macchina, metterla in casa e attaccare il baracchino per vedere se il disturbo perdura. Spegnere il contattore, mi. Se c'è ancora, certo non è da casa sua. Asco, la batteria della macchina mia è di 80 ampere, me la porti tu, qua, dalla macchina. Cos'è, un po' pesantuccia, no? 180 ampere, mamma mia, no, la mia è 50, 55, lì è molto più pesante, allora, no. Povero me. E purtroppo con questi baracchini, poi i baracchini non sono radio professionali, magari, che hanno mille schermature, baracchini sono. E forse hai ragione. Se vuoi 2.440 non era entrato il disturbo. Con l'MB che c'ha, inserisci quello. Ma il segnale ti silenzia il coso, ma l'audio rimane. Cioè il segnale del disturbo c'è. Secondo me anche col 440 il disturbo l'avresti visto. Sì, ma molto più attenuato. Aspetta il combo, ripeti un carriere. Ma dove sono andati? Dove vai? Sempre, il buco l'antennino me l'ha fatto. Se io attivo, quelle deboli poi non li sento. Io il disturbo lo faccio sparire con l'RFI. Però cazzo, la moglie chi so, diciamo così, più deboli non li sento. Ma io la verità, posso fare, come è stato un po' il baracchino riceve bene, sono un po' attenuato, comunque sui bassi già li sento lo stesso, perché senti, cioè, invece di arrivare, non so, 7, 8, arrivano 2, 3. Arriva a 9, 10 il disturbo, non hai compreso? Certo, mamma mia, c'è qualcosa lì vicino, in zona, buco. Come ha detto Claudio, ci vorrebbe l'intervento degli organi preposti, solo che bisognava pagarsi l'intervento. Guardate le immagini, quelli non escono se non è grave o se non li paghi. Che diverso, se non li paghi. Ehi, se paghi almeno c'ha i soldi della benzina per uscire, capito? Si conferma. Questo però non so un po' bene. Vediamo se aumento l'accento. Sembra di sì. Oh, io vedo un casino. Qua, posso dire che questo baracchino qua non è freddo, la verità. Allora l'antenna, bella favorita. E quanto c'hai tu adesso di Quaremme, grosso modo? Un minimo ce l'avrai. Ma io? E io, lui. Qua, devi segnare il numero di uno, guarda. E così è qua, o meglio, adesso facciamo, aspetta che guardo. Allora, se vogliamo essere pignoli, se fosse una radio con lo smitter più serio sarebbe Santiago 3, capito? Quando c'è calma piatta scende a 2-1, proprio quasi non si sente nulla. Me ne accorgevo anche con l'8-5-7 di questo QRM oggi, anzi ti dirò di più che nel pomeriggio era Santiago 5 su questo canale con l'857, Santiago 5 era rumorosetto questo canale. Beh, diciamo che lo smitter dell'857 non è professionale, però è abbastanza veritiero, grosso modo. Ed era Santiago 5. Sì, vabbè, purtroppo adesso inizia, è un caldo, mamma mia, disturbi, anche a me aumentano, eh. Ora posso dire che questo paracchino non ne prende colpi. Mila biocco mio, perché quello è della serie di questi qua, è PT3006, sono fatti abbastanza bene, non come Multimode 3. Lo so, via, anch'io, noi mi raggia stregando, devo rimangiare, guarda, e poi tu, ma purtroppo devo salire qua, fare la programma, e mi resto un po' lì al circolo, fanno karaoke così. Guarda, dico più, guarda, ieri proprio, guarda, mi sono... quando sei nervoso, manco te ne accorgi. Diciamo che ho esagerato con la birra, no? A proposito del nervosismo, Claudio, quello di sotto, ogni avvoluto che ha fatto stamattina al portone, non ho capito bene come sia andato l'andata, ma la voce messe, è un pazzo, Qualche cosa è uscito, ha scrollato? No, non lo so, qualcuno gli ha detto o fatto qualcosa. Cazzo, la voce messa, no? Lui, vabbè, non te lo posso dire. In M non te lo posso dire in FM. Non mi dire niente a me. Io dico sempre, quando uno sclera vuol dire che è punteacchiato, perché o è scemo, capito? Però quando uno sclera vuol dire che qualcosa è successo, capito? Mi hanno rotto le scarpe. Se no è macco. È macco. Ce l'ha sempre con qualcuno, è sempre incazzato con qualcuno. È una cosa, tu se lo senti qua, poi quando gli fanno qualcosa in particolare, allora proprio esce, c'ha delle reazioni anche fuori dal comune, infatti andrebbe internato. Ho capito, se uno ha dei problemi, allora ha dei problemi e ci vuole il massimo rispetto, perché ha problemi, capito? Se uno ha problemi non è anche sclera così, vuol dire che è esaurito di tutto, non mi serve più, non va pazzi. Vuoi capire l'individuo? Modello Santa Maria di Pisa. Vabbè. Io ti ripeto, ribadisco che vuol dire che c'è qualche problema, qualche disturbo mentale, o qualche disturbo, qualche patologia particolare, altrimenti uno non può sclerare così. Sono le macchie sclerali, contro di lui. È chiaro che se uno è punteacchiato, è disturbato, allora anche il mio carattere è molto impulsivo, quindi... Però, se non mi rompo le balle io non sono impulsivo, sono abbastanza buono, però se mi rompo le balle è chiaro che il carattere cambia subito, immediatamente. E allora dimmi un attimino. Hola. Allora prendi colpi subito. Dai che mi regolo il volume. Il volume di cosa? Del ricevitore? Con la mia voce? No, avevo abbassato il volume, avevano suonato e invece siccome sono attaccati luce e campanello, no, luce alle scale e campanello, come tocchi uno io quasi inevitabilmente si tocca anche l'altro, sugli studenti di fronte, no? Come hanno acceso la luce ho sentito dream, no, ho detto non sarà che sono di sotto che è inteso tutto, no? Te immagini, sei entrato nelle casse di computer qualche parte e ha sentito che un mezzo fatto. Si chiama anche solo poi tutti armati sono, eh. cazzo fucile, qui bisogna stare attenti, perché uno, ascolta, spazio in FM, te lo devo dire. Dimmi. Questo, siccome appunto ha delle reazioni sempre un po' troppo esagerate, no, in base a quello che succede, lui sai come lo chiamavamo in un periodo? Olindo, si chiama Cuscuzzu, lo chiamavamo Olindo Cuscuzzu. Olindo, quello è per di erba, per carità di Dio. E vabbè, si è armato, noi già abbiamo l'amico nostro, capito? Ce l'ho anche io l'arma, però, sai, quelle dell'amico nostro sono più efficaci, bucano prima, amico. E poi Samugere, mi di cognome, fa Bazzoni, e la moglie di Olindo era Bazzi, quindi Olindo e Rosa Bazzi, e Rosa Bazzoni. Bella vina infatti, io passerei, ma passo. Deia. No, io lo dico in FM perché, capito, non riesce di rientrare in chiaro su eventuali casse o roba del genere, capito? In FM è più discreto. Questi in AM magari manco te ne accorgi, ti sentono da qualche parte, no? E poi scoppia Lugasino. Ah, meglio evitare. È meglio evitare i casini sempre. Oh, io mi spavento. No, vabbè. Dunque, sta radio è... suonava benissimo. La ventola la sento pochissimo, io non vorrei. Sì, sta funzionando, sta funzionando. Più silenzioso l'ho fatta del 440 che è stato mandato a revisionare, che vabbè, quella 440 è un po' più grande, poi è una ventola diversa, questa è messa in orizzontale nella serie, ma l'ho tutta lubrificata. Sai con cosa si lubrificano quelle ventole? Mai mettere vaselina e grasso, una goccia di olio Singer, te lo ricordi quell'olio che si metteva nelle macchine da cucire? Io ce l'ho perché è fumato. È una pipettina di mia suocera, capito, che lo metteva dove saliva e scendeva l'agomi. Guarda la combinazione, sì, ce l'ho quello trasparente, l'ho usato oggi per la macchinetta tagliacapelli. Ne ho messo alcune gocce sulle lame della macchinetta tagliacapelli perché erano un po' ferme da un po' di tempo. Esatto, l'olio Singer o tipo Singer, dai. Che poi è un olio abbastanza grasso, mi come olio, ho detto. L'ho usato proprio oggi, mi. Sì, no, io l'ho comprato proprio la Singer via Roma, dalla campagna, quello che c'è di via Roma, capito? Quello della Singer. È una boccettina piccolina, costa una barca di soldi. Ed era passata, l'avevo trovata dentro un cassetto quando ho messo praticamente tutto sotto sopra, qua abbiamo rifatto tutto nuovo, c'era una base, un cassetto, un po' di questa attrezzatura qui, si è trovato il tuo e non l'ho mai buttato, l'ho tenuto da parte e appunto serve per lubrificare queste cose perché non è molto, molto fine, capite? Ho messo proprio una goccettina nel cosettino del motorino da una parte all'altra dove c'è un cuscinetto piccolo, microscopico che mantiene l'asse della ventola. E manco si sente, se non metti l'orecchio non si sente neanche. Mentre quello è 440 che l'ho mandato a revisionare la sento quando parte. La sento, invece questo deve metterci proprio l'orecchio, vabbè, io non partivo per niente qui. Adesso radio è, la sto tenendo sempre in trasmissione, non vedo che sta funzionando perfettamente. Vabbè. Ok, Natalino, mi si è spento Natalino, ok, miseria. Mi si è spento il mio amico, allora bisogna fare che cosa per individuare questa cosa che lo disturba. E come facciamo? Chiamiamo Capitan Ventosa, domani telefoneggio Striscia la Notizia. Mi hai tolto le parole da bocca. Natali, domani telefoniamo Striscia la Notizia, chiamiamo Capitan Ventosa, avvegliati ragazza, unita antenna miracolosa. E quello verrebbe mi, tanto è pagato dalla trasmissione, verrebbe mi, farò le riprese, te le immagini? Ci metto in giornale, il nostro lavoro, il nostro ottico dell'antenna, Che esce che? Non perché hai detto, beh, qualcosa dobbiamo fare. Questo disturbo non ci voleva adesso. Non ci voleva. Eia. Però i primi giorni dell'installazione lui non è che ci ha detto più di tanto, ha detto che arrivava sì, 3, 4 il QRM, insomma un po' di QRM arrivava, ma non ci aveva mai detto che era così alto. Evidentemente c'è qualche altro disturbo che si è inserito a quello minimo, a quello piccolo, si è inserito qualche altro disturbo e adesso lo crea questo problema. Speriamo che sia veramente un condizionatore. Io penso che tra domani e dopodomani farà via questo tempo così, questo freddo, perché il tempo è bello, solo c'è freddo, c'è questa specie di tramontana, questo vento russo che arriva dalla Russia, è molto freddo. Dovrebbe cambiare il tempo a quel punto lì, no. Se fosse veramente un condizionatore, no, non ci sarebbero più problemi, capito? Eia. Boh, vediamo, dai. Cazzo, te immagini? Olindo, mamma mia. Già siamo capitate bene. Vabbè. Vediamo se c'è, faccio la chiamata per Gianni Doppio Rum, sei all'ascolto? Sì, che ci sono. Visto? Io lo penso, lui appare. Poi vi sto ascoltando a parecchio, solo che lasciamo perdere, stavo pulendo la casa, mi si è rovesciato tutto il secchio con l'acqua, sono stato 3 ore pulendo acqua. Ah, hai una seccatura. Capita, cos'è questo rumore? No, quello di giù, sta sempre ravanando. Ok, ciao già, ben entrato, dai. Inteso, a Natalino purtroppo c'è un disturbo forte, un QRM elettrico forte, e gli arriva anche 9 più 10, e non sente le persone basse, che sente quelli forti e bumi. Sì, praticamente l'ho sentito. Ho sentito perché stavo facendo ascolto mentre facevo le cose. Mi stavo ascoltando, dai. Ah, io stavo pensando anche di quelle macchinette che usano per l'aerosolo, queste cose qua, oppure qualche apparecchiatura, qualche persona malata. Può succedere. Ciao già, sì, ma infatti non si deve abbattere, è una cosa temporanea, sicuramente qualche macchinario che fa questo disturbo, perché altre cose lì non ce ne so, poi non ce l'aveva anche con l'antenna piccola, che però chiaramente in base all'antenna era un po' attenuato il segnale, adesso invece con l'antenna grande se lo porta dentro. Speriamo che sparisca, bisogna che ti dica. Già, ma perché usi il secchio normale, non usi il moccio veleda? Sì, il moccio. Solo qua che ho fatto la cazzata, invece di alzare il secchio e portarlo avanti, l'ho spinto con il piede. C'era, deve essere qualche disturbo, tu, che cagno di terra, ma staccate la camera da lei. Già è acqua, la raccolta, arriegia, già si asciuga, le parte l'ha asciugata subito, sia che penetrava da qualche fuga a quello di sotto, sai l'acqua com'è? Sì, no, quello sì, l'ha asciugato con la paletta e la scopa all'inizio, voleva raccoltare così. No, ma non è quello il problema è che va sotto i mobili e rimarcisce. Ma è quello, maledizione, quello è successo anche a me, che si è rotta la pompa della lavatrice, già. La pompa della rivolta aveva la lavatrice, non vado bene per la lavatrice, si è bucata, mia moglie sentiva questo, non capiva dove proveniva perché era dietro, poi non ha fatto altro che trovare l'acqua per terra, c'era la gente tutta la gaggia, io non c'ero neanche, capito, era lavoro, ho detto subito vai in bagno, togli lo sportellino, chiuditi l'acqua, asciugate in fretta, infortunatamente non è successo niente. E no, quando va a impregnarsi l'acqua bisogna che sia un bel po', non ce la fanno a impregnarsi subito. Che poi tra quello di sotto già me l'ha fatto il danno a me nel bagno, ha detto che veniva aggiustandolo, e dice aspettiamo a asciugare e poi te lo faccio. Tu visto l'hai raccattato io. Che a me è successo da quello di sopra, capito? Io, siccome sono tantissimi rapporti e non ho voluto trovare con l'asciuga, poi vediamo cosa succede. Ho fatto tutta la macchia asciugata, mi è iniziato a scenderne la tempera, praticamente la tinta dal solaio del bagno, anche a me, l'ho tutto pulito, riverdeggiato e poi mi ha fatto pagare sia la giornata e sia la tinta, capite? E ho pagato. No, questo tra l'altro è il muratore, mentre che me lo faceva lui, lo diciamo più prima, no, se no chiamiamo un operaio e me lo faccio fare, perché si è tutto rigonfiato il muro. No, non ti preoccupare, come esci da qua che te lo faccio, non ha mai fatto, l'ho detto alla moglie, l'ho detto a lui 50 volte e non l'ha mai fatto. Aspetta che mi sapere il io me l'ho fatto io e poi mi ho fatto adesso della tempera perché non ne avevo, l'ho comprato al bricola 12 euro, ho preso quella piccola e poi mi ho fatto l'altra 20 euro, in pratica 35 euro mi ho fatto la, l'ho fatto io, mi ho ricevuto tutto il solaio dal bagno e basta, tutto il boschetto che ho ricevuto. Poi mi stavo a dire, no, non ti preoccupare, ho comprato la tinta, una pennelleccia, tutto mi ha pagato. E mi ho tenuto tutto, c'è ancora il poggio, la pennelleccia, bella nuova, la tinta che aveva fatta. Non basta, non ci viene di stuccare niente, nulla, solo passato la, appena appena la carta l'ho tratta con la fine fine, carteggiato tutto e poi l'ho ricevuto. Mi ho fatto tutto il solito il bagno. Non ho pagato Eddo, capito? Quello vuol dire che è un muratore l'onfio, vero Ratapignana? L'onfio, ma è freghista, come lo vuoi chiamare? Tanto più che un muratore, farlo lui non gli sarebbe costato quasi nulla. Vabbè, capita. Poi, allora, tu non so se c'eri, perché io sono entrato nel pomeriggio alle 4, o giù di lì e c'era Franco, no? Prima di andare in banda amatoriale. E gli avevo detto che oggi ero uscito per la prima volta. Vedi, a guidare guidi bene perché non devi camminare, non ti viene il capogiro guidando, però a camminare devi camminare piano. Siamo andati da Lido, abbiamo fatto una mini spesuccia, giusto due cosette che occorrevano, e poi ho trovato parcheggio subito, che culo. Poi però sulle scale, me l'aspettavo, e sulle scale mi ha preso poi il capogiro portando l'acqua. È tutto lì, dai, però sono stato bene per il resto. Sì, quando ti viene quel disturbo purtroppo li strascichi, o strascichi, strascichi credo, ti durano una settimana, cioè questo capogiro dura, si azzera nell'arco di una settimana, capito? Ok. Franco chi? Quello che parla con noi da Via Sicilia? Franco, quello che entra con noi, sì, che entra con noi, che modula spesso dalla bara mobile. Un attimo, va bene, dai, io sono le 8:05, ho portato il cane già, anch'io sto portando alle 8 adesso, visto che c'è ancora luce. Portatela e tu, Gianni sta ancora asciugando, vai, Marco lì, mi allontano qualcosa, 20 minuti, non mi mette che qua, lascio tutto acceso qua, e vado a portare il cane, ok? Un attimo, vai, allora apparisci mi sia varato, vediamo un poco, lo balla giù per ammassa. Natali, portarsi pure, come ha detto Valerio, che quel cavo della DSL che passa proprio attaccato al tubo dell'antenna sia quello il problema, perché se te lo faceva prima e l'antenna era sempre lì, però ci sia quello Natali. Mi hai capito Natali? Perché noi abbiamo fatto entrare il cavo nel foro, dove entra il cavo della DSL, giusto? Sbagliato, il cavo della DSL entra in tutta la trugo. Sono due buchi separati, ha detto uno grosso, di qua non entrano vini, di noghi. E chiedo che la DSL è più un grosso in un altro buco separato. Ho capito Natali, ho capito, ok, e quello va bene. Però il tubo dell'antenna, il cavo, no, quello che è attaccato al muro, è vicino alla staffa, no? Mi ricordo di sì io. Stai sbagliando, è in basso il cavo, anzi ne entrano due della DSL. Che miseria. sicuramente a che cosa vedi sul genere. Ascolta, cosa hai fatto? Hai messo il capo a massa? Ho messo il palo a massa, più l'accordatore a massa. Voglio vedere. Allora, il disturbo c'è, ma non sale a 9-10, mi sa. Adesso vediamo un po'. Hai attenuato comunque il disturbo, l'hai attenuato. Neanche con noise banker riesci a eliminarlo un pochino con l'NB? No, guarda, adesso è salito attorno a 9-10. E allora è un disturbo di qualche macchinario che si accende e si spegne in attori. Come ho detto Gianni, qualche macchinario di qualcuno che ce l'ha, tipo cosa vuoi dire, non lo so, può essere anche un autoclave, guarda, può essere anche il motore dell'autoclave, bisogna vedere. Ma cosa vuoi ti dire, vabbè, la Gussi ci va andando, se non ne cavo tutto. Ascolta, noi ci senti, a futtidini, ma cosa stai lì a mattare, capito? Tu senti a noi, sei quindi di fuori, non li senti quando c'è questo rumore, pazienza, e cosa vuoi ti dire, Natali? Non hai bisogno di caccane tutto. C'è questo rumore, bisogna conviverci, io spero che sparisca il più presto possibile, che sia un macchinario momentaneo che hanno attaccato, che sparisca il più presto possibile, altro ti posso lì. Ma cosa vuoi ti dica? Allora QRM non maggio, di me tu, fa di golpe proprio, fa un romoraccio, cazzo, la modulazione di quelli bassi te la annulla proprio, me l'ha sentita Marco al telefono. Pazienza Natali, se te la annulla la modulazione di quelli bassi chi modula con noi? Modula Valerio e Giuseppe, ma non è che modula altro nessuno, la greppa nostra già li senti bene, non la vera Massimiliano, a Sandro, a Marco, a me, a Gianni, cosa te la fuori? Se infatti sparisce e poi appare, sparisce e appare, è qualche motore che entra in funzione e poi si stacca, è qualcosa del genere Natali, non è altro, capito? Quindi vediamo un po', magari non lo usa, cosa mi dica, non lo so, ma per me può essere o qualche motore di autoclave o qualche inverter di qualche condizionatore che c'hai vicino, magari sopra, proprio dove c'è l'antenna che noi non vediamo, capito? Quello del palazzo di fronte c'è la condizionatore. Non era male adesso, una girata che ha prodotto la scenaria. Ecco, allora se ce l'ha quello di fronte, quello di fronte, perché l'inverter che cosa fa? Si attacca e rimane appunto con il calore, perché in questi giorni c'è molto freddo, quindi sicuramente quelle case sono fredde e hanno inserito il condizionatore. L'inverter fa così, si attacca, come quello che ho io, si attacca, rimane attaccato. Quando arriva quella temperatura si stacca, capito? Poi quando si riabbassa la temperatura si riattacca. È un inverter, è un condizionatore, il motore del condizionatore, capito Natali? Anche signore riesce a 2.000 euro di illusi, così mi rugavano. No, ma in questi giorni sicuramente, perché c'è molto freddo, capito? La temperatura è molto bassa con questa perturbazione russa. Tu vedrai che tra domani e dopodomani quel rumore non lo senti più, perché sta arrivando la temperatura normale di fine aprile, quindi non c'è problema, sicuramente. Stai tranquillo e sereno, non ho bisogno di fare massi e contromassi, i massi che cuoi. Attacca che do niente, cazzo! L'attacchi fai tatam! Ma cosa che do niente? Cosa attacchi che do niente? Cazzo, bisogna avere un chilo, perché no che fa le sacchette di televisore. Mi rompi il coglione, vedrai, cazzo, non ne vedi più nessun televisore, no? Così mi piace, è aggressivo, non riesce aggressivo, che dai, riprendete voi con Marco, c'è anche Gianni che stava pulendo casa, io vado a portare il cane, dai, che sono già le 8, ci sentiamo dopo, ok? Ti salgo subito. Ma aspetta, io vado a vedere il televisore, il telegiornale, lascio tutto acceso qua. Ehi, va bene, vai, ci sentiamo dopo, allora vado a portare il cane, già vi chiamo io per lo salvo. Ehi, ciao a tutti per adesso, dai. Hola. C'è qualcuno qua? C'è qualcuno qua? Cambio. Oh, qualcuno qua? Sempre macchiata. Ma ce la mette in valigia. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, prova radio, prova. Vai, vai, cosa prova? Poi, Natalia, sto provando l'MC 85 di Massimiliano. Com'è secondo te? Un bel piatto di Rugua 340, bellissima radio. Ehi, aspetta che allora adesso c'è il compressore inserito del microfono, il processore inserito del S80, allora tolgo il... Ecco qua, così è senza compressore dell'MC85, tiro su leggermente la levetta, va bene. No, se la tiri su è troppo forte, lasciala come era all'inizio. Ecco qua, allora la lasciamo stare così, bene va. È ancora troppo forte, perché si sente rumore. Aspetta che chiudo la porta, dai. Prova a vedere come era prima, senza compressore di dinamica. Comunque è roba elettrica, l'ho messo a 12 volte, adesso l'ho attenuato a me quel disturbo. Ho chiuso la porta che c'era la televisione accesa e fa un casino nero. Ok, allora, così è normale, e invece così... Lo sollevo appena, eccolo qua, dimmi se va bene così come adesso o che cosa? È troppo esasperata, lasciala normale che è un bijou, è più alto il buco di Rugua 340. Allora praticamente tu dici così, ecco qua. Vedi c'è questo interruttore che non mi piace per niente, è l'interruttore del compressore microfonico, capito? Che non va. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, prova radio, 1, 2, 3, 4, 5, prova radio, ecco qua. Allora mi dici così, stavi dicendo tu? Ehi, è anche troppo alta, mi così. Allora la abbassiamo leggermente così, la mettiamo così, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, va bene così. Mettici l'attacco e la tocca se li uso. Sì, Massimiliano, bisogna dirlo, non meno, io... Aspetta che ho le cuffie, mi sto ascoltando, ok. Io, lo sai, nelle mie radio non tocco mai niente. Quindi così va bene vediamo un po', ho mandato un messaggio a Massimiliano, attenzione Massimiliano, ci sei? Non c'è così il compressore dell'MC85 inserito, però c'è questo, ci vuole un po' di spreco i contatti, adesso lo apro e vedo un po' da sotto se riesco a pulirlo bene, perché a volte si inserisce, a volte no, capito? Allora bisogna pulirlo e basta, il processore inserito lo si ottanta, che sta andando magnificamente bene. Ehi, quello sì, manca anche la radio quando tocchi quell'interruttore qua. Quando tu lo tocchi manca la radio, buco. Te ne sei accorto, quando tocco quell'interruttore praticamente manca la radio. Infatti quello è il problema che ha riscontrato Massimiliano, perché in linea di massima l'MC85 va molto bene, non è che sia un microfono del cacchio, capito? No, va benissimo, c'è una radio paurosa. Infatti, mi ha mandato un messaggio Massimiliano, se c'è, mi sembra che sia lui. Okay. Ah, dammi un attimo che sono fuori che mi sto fumando una sigaretta. Ecco. Come rientro fuori una sigaretta ti chiamo sul 10, no? Ho mandato in diretta, vabbè. Perché lui non fuma dentro, perché c'è la bambina, fa bene. Ok, quindi Natalia mi stava dicendo, hai praticamente fatto che cosa? Hai diminuito l'alimentazione dell'alimentatore? Io ho diminuito quella lì, perché essendo al massimo a quasi 14 volte, 13,8 mi sembra sembra che siano quando lo metti in automatico. Ho tolto l'automatico e l'ho aggiustato io con la manopola e l'ho messo a 12 volt. Sicuramente è roba elettrica. Ma i toruidi dove si possono trovare? Perché a me mi sa che fusarono magia di chissà roba, mamma mia. Io me lo ricordo che c'erano certi circuiti, ma non mi ricordo dove, cazzo. Ma tu toruidi intendi quello a fare rotondo che si mette dentro il capo? E allora? Non ti preoccupare, Natalie, già ti aiuto io. Domani mattina intanto sono con l'elettricista e lui ce li ha perché li usa nei PLC, capito? Nei PLC dei tre controlli. Quindi me li faccio dare un paio e te li do, ok? Sono quelli rotondi neri che tu metti dentro il cavo di alimentazione, quello vuoi. Eia, digli dove devo metterlo, se in tutti e due i cavi o solo nel rosso. Mi sembra in quello rosso, mi aveva detto anche a me una volta che avevo quel problema. Mi sembra solo in quello rosso, però glielo dico a lui. Capito, domani mattina con me che dobbiamo fare un controllo proprio nei PLC, nei telecontrolli. E quindi lui ce li ha perché l'ho visto che li mette quando i telecontrolli hanno scariche, elettrostatiche, eccetera. Me li faccio dare un paio, capito? E così provi e sei a posto, non ti preoccupare. Tu chiedi sempre a me prima di fare casino, non ti devi preoccupare di niente. Claudio, sono della radio e ho abbassato leggermente da 5 a 4 il microfono. Buona, buona. Allora guarda, questo è col compressore dell'MC85 inserito che con l'interruttore o va sostituito o va smontato e pulito perché sicuramente non fa. Io non ho spray per contatti, gli ho dato appena un colpettino e si è ripreso. Adesso te lo stacco così, attaccato il compressore. Così è staccato, guarda, questa è la differenza che c'è tra il compressore inserito e disinserito, così è disinserito e così è inserito, lo vedi? E così è inserito. Beh, non è che cambia moltissimo, va, ci aumenta un pochino la radio comunque. Come tonalità, com'è rispetto all'MC60, noti qualche differenza? La mia timbrica continua a fare miracoli. Sembra uguale, che? Okay. Sembra uguale, no? Tutti i microfoni con me sono uguali, ammazza che viene varia tutti in antiche. Adesso te l'ho portato, guarda, così ce l'avevi tu, guarda. Ecco, così era 5. Ok, io l'ho portato a 3, così a 5 come me l'hai dato. Ma io quello non lo usavo, Claudio, perché quello il pulsante non andava. Vabbè, adesso sto andando però. Così è inserito il compressore e così è disinserito, guarda, così lo stavi usando tu come me l'hai dato, senza compressore microfonico, processore della radio inserito, e senza compressore dell'MC85, posizione 5 del MIC-11, come me l'hai dato tu. Questa è come praticamente lo stavi usando tu. Noti differenza tra questo microfono e l'MC60 nella mia modulazione? Quasi niente. Quindi la mia voce continua a fare miracoli, cosa vuoi ti dico? Non so cosa dirti, Massimiliano. Anche il microfono non ha nessun difetto, c'è questo problemino che è risolvibile al 100%, non ho spray per contatti. Lo comprerò lunedì da fusare, tanto serve anche a me perché non ne ho. Dopodiché ti metto a posto questo interruttorino e diciamo che è tutto all'Ande Caraibi, perlomeno. La radio sta funzionando perfettamente, è bella calda, la ventola funziona. Sembra tutto a posto. Ok, Natalie, riprendi per Massimiliano e poi ok. E beh, Massimiliano, come te ne sembra quel microfono? A me mi pare di andare benissimo. Come sembra perfetto, boh, si assomiglia tantissimo all'MC60. Sì, poi col compressore è ancora più alto. Io direi senza compressore va benissimo. Sì, o col compressore o senza. poi giustamente dalla timbrica mia alla sua cambia un po', però. Beh, se vediamo che è più basso lo inserisci, se è più basso quando parli tu, capito? Bisogna vedere, far vedere i due mentre anda. Tu già lo sai che va una timbrica particolare. Infatti. Va bene, dai signora, che io mi siedo a mangiare la pappa là. Va benissimo, là, Claudia. Vedi un po'. Va bene, comunque, la radio è perfetta, microfono di lusso. Può andare. Ok, perfetto. Va bene, allora, dai. Microfono è in perfetto stato. L'unico problema che ha è questa cosa che l'interruttorino va pulito. Va pulito. Guarda, c'è anche la differenza dall'altro, perché questa è la tonalità alta e questa è la tonalità bassa, fa veramente schifo. Non ci sono paragoni proprio, quindi devi lasciare la tonalità alta com'era. Mickey Game penso che per te vada bene così, con le Mickey Leven queste livelli, e poi io posso inserire il compressore, che è questo. Vedi che adesso sta funzionando, gli ho dato una sistematina, ma comunque va pulito, smontato e pulito. Ok, va bene Massimiliano, allora ti lascio alla tua cena, salutami tutti a casa e ci aggiorniamo martedì, ok? Va bene, ok Claudia, già ci sentiamo anche domani in radio, va. Ciao, buona serata anche a te Natalino, e ci sentiamo, va, io mi stacco. Ciao, io stavo provando qua. Ok, andrà bene Mera. Ok, d'accordo. Ciao Massimiliano, vabbè, buona cena, buon tutto, ci aggiorniamo domani. Va bene Natalino, allora adesso ho inserito il compressore microfonico, quindi per te non ci sono cambiamenti, quindi o così con il compressore inserito, oppure anche col compressore disinserito, la modulazione va bene lo stesso, ok? Sì, anzi la preferisco senza il compressore, perché sale troppo il compressore. Perfetto, la lasciamo senza il compressore, così siamo a posto. Va bene, era giusto per capire com'è la situazione di questo microfono, dai. Massimiliano, sia esteticamente che moralmente non mi piace, e allora abbiamo detto portano così, te lo provo io, vediamo un pochino come va, però dovete sempre tener conto che la mia modulazione rispetto a quella vostra è una faguba, in senso buono, ma per carità, però io questi microfoni vanno bene, per me non cambia niente. È che è un barrasone questo MC85, se no rimane sempre un grandissimo microfono, c'è il suo parametrico, insomma, tre uscite che ti possono consentire di usare tre radio chimico, oppure anche di diversa connessione con lo stesso microfono, e insomma un microfono abbastanza valido, eh? Va bene, sì, adesso domani mattina Natali io chiedo a questo collega elettricista, ti ripeto siamo assieme, mi faccio dare così, le dico dove devi metterlo, ma sicuramente va uno Natali, lo metti nel cavo, ok? Mi faccio dare uno nel cavo, uno per il cavo dell'antenna, quella che va attaccata al baracchino, e una per l'alimentatore, ok? Fatti di da, quindi come li devo piazzare, già un bel fatto. Ma chi è il cane che sta abbaiando? Deve essere rientrato il galeotto, il gas. Era a fare la piscia. Ascolta, io sono in cuffia, quando piggio il loco, il BTT, sento un botto. Lo senti anche tu? Prova. Sì, che la fa. Cos'è la cosa? Va bene. Comunque, per me è validissima la modulazione, io sono in cuffia, mi sto ascoltando con 440. senza antenna, tenuto messo dritto. Si fa molto bene. Va bene, va bene. Non problemi. È diverso da quello dell'MC60, eh? Il botto, come dici tu. Sì, l'MC60 è diverso. Però come timbrica di modulazione, secondo te si assomiglia all'MC60, c'è una tonalità sempre medio-bassa, medio-alta, e vabbè, non cambia molto. Sì, è ottimo. Va bene allora, vai. Così siamo a cavallo, se no non mi bugavano i piedi, un che casario. Ci ho lavorato un pochino, comunque abbiamo avuto ottimi risultati, proprio la principale, ti ripeto, era la ventola che mi mandava in tinte la radio, perché il casario quando sciagano, aspetta, che non posso staccare. Ecco qua, queste radio quando scaldano hanno bisogno subito di raffreddare la parte del finale, perché altrimenti fanno protezione. Quindi quello abbiamo fatto, una bella pulitina, una zerina già fatto, ma adesso sembra a posto, niente di particolare, niente roba tecnica, solo fesserie. E manco mari, siete stati fortunati, perché quello impedisce al finale di bruciarsi, è quello lì che te la manda in protezione, andi caldi, tac. E fortunatamente quando Giuseppe stava uscendo male, io ero un po' incasinato, non potevo andare ad Alghero, ma ha chiesto la cortesia a Valerio di andarci, capite? Di andare ad Alghero a dare uno sguardo. E Valerio quando è andato ha visto che il power era tutto manetta, quindi stavo andando con la massima potenza della radio, sia a caldo che a freddo, abbiamo rischiato tantissimo. E cosa è successo? Che la ventola è stata molto eccitata, la resistenza che fa partire è praticamente che dà l'impulso al termostato, ha scaldato, quindi si è bruciata. Il termostato non c'aveva più la temperatura per poter far partire la ventola e quindi era bloccata. Io ieri notte sono rimasto sino a mezzanotte e mezza che continuavo a eccitarlo a farlo arrivare al massimo dei gradi e poi alla fine la radio non mi stava dando più la trasmissione, avevo solo la ricezione e niente trasmissione, capito? E quindi mi sono accorto che c'era qualcosa che andava, l'ho aperta e la ventola non partiva nonostante il finale fosse volente. E ho controllato la resistenza e ho visto che era bruciata e quindi l'ho sostituito. Quella è la prima cosa che ho fatto, ho detto se ho culo che il termostato si è salvato, dovrebbe partire, così è successo. Vabbè, abbiamo avuto fortuna, dai. Una lenticchietta cambiata, tutta bella pulita, sistemata. Peccato perché è veramente una bella radio, nuova, non perché gliela avevo fatta io Giuseppe, ma nuova anche dentro, non è sporcata, diciamo, ha avuto pochi problemi, mi capite? E quindi adesso è completamente in ordine, dai. Ehi, andava vecchia, no. Meno male che ti sia accorto di quella lenticchia che era bruciata. Si vedeva la coppa, è la coppa, capito? Io l'unica cosa che ho fatto, ho provato a vedere se arrivava la tensione al motorino, la tensione arrivava, quindi il salvataggio è quello, perché quei motorini lì di quelle ventole non sono facili da trovare, a meno che non c'hai un'altra radio di scorta, allora va bene. Però, quindi ho lubrificato tutto, insomma, ho messo tutto lì in ordine, pulito, niente di particolare, dai. Una lenticchietta, ne ho approfittato per pulirlo tutto con la trilina dentro, soffiarlo bene, adesso è a posto la radio. L'unica prova che volevo fare a questo MC85 perché non andava, Giuseppe mi diceva appunto sempre che andava in tilt, adesso ho scoperto che questo tastino di accensione dove c'era il phone e poi il compressore sicuramente è sporco perché a volte aggancia, a volte non aggancia, quindi come più o meno fa l'M65 60, va a tastino 4, questi tastini dipende il fuso oro, quindi no, non ci sono problemi, c'è due filettini attaccati, faccio domani, lo apro, provo prima a pulirlo bene, cioè domani, domenica, lunedì, prima a pulirlo bene con lo sberto dei contatti e farlo andare avanti e indietro, e me ne faccio fare uno, nel caso dovesse fare difetto, glielo disalvo, glielo riattacco e se la bidello ci mette il microfono a posto perché è nuovo, nuovo, nuovo anche questo. Infatti, allora vediamo se riusciamo a eliminare i rumori. Fatti spiegare come vanno piazzate, che io non mi lamento più, è 30 anni fa che la vivo, in macchina blu io me la vi piazzando, a chi va più problemi. E praticamente me l'avevo messo nel capo di alimentazione della macchina, il toluide. Nattoli, nel capo di alimentazione lo metti nel rosso dell'alimentatore, ok? E l'altro lo metti nel capo dell'antenna, capito? Dovresti attenuare tantissimo, risolvere il problema. Io comunque domani ti ripeto che ho elettricista e sento cosa mi dice. Ma digli se devo fare giri di filo dentro il toroide, è quello che mi interessa, come va piazzato blu. Sto guardando Pionera per dare un colpo di telefono, ma no, non c'è problema. Non c'è carico io, domani ti faccio sapere cosa mi dici. E ero manco vi ribiazzo e via. Ma domani deve lavorare. E lui sì. Vabbè, là, ci sentiamo al limite. Là, anch'io chiudo qua. Ci aggiorniamo domani. Claudio. Già ti sente. Claudio, ciao. Ciao, cioè già ti sento, io anche quando parli lì che Natalino sta parlando già ti accoppio, non ti preoccupare. Ok, ciao Concè. Va bene Natali, dai, ci aggiorniamo domani, sì, intanto io faccio domani mattina scale 7, faccio un giro di controllo. Penso a metà mattinata, a fine mattinata di essere a casa. Ti faccio un colpo di citofono, ok? Ok, va bene. Ciao, buonanotte, grazie alle prove, ci sentiamo domani, ciao ciao. Ciao ciao.